la notte, la famosa notte delle streghe. Siamo qui su Runtime Radio come tutte le volte, cercando di capire se da questa notte può uscire qualcosa di male. Con me, puro male. Puro male. Alla mia destra c'è il fantasma di Marco. Sentite, Marco, col fantasma con le chiavi. No, non sono le chiavi, sono le catene. Mi distrugge sogni, la colle costruzione. Hai ragione. E invece alla mia sinistra. Buonasera. Ma no, tutta la sensazione così. No. Ti viene il cancro. Noia. Sai che cosa mi ricordi? I ghoul di Fallout 3. Anche. Kit Sengul. Kit Sengul. Ragazzi, è la notte delle streghe, quindi auguriamoci che le quote rosa si palesino, perché sennò che notte delle streghe. Fatto. Mica possiamo fare le streghe così a buffo. A buffo. Giusto. Dall'altra parte. Siamo impegnato di parità dei sessi, quindi va bene lo stesso. Ma infatti, un appello ai vari runtimers che sono in ascolto: chiamate le vostre dolci metà, le vostre signore, ad ascoltare a fare le streghe. Se no, che vengono a fare? Intanto presentiamo anche gli amici dall'altra parte. Abbiamo il nostro amico Puccio. Ah, è già morto, è già dall'altra parte. Dall'altra parte. Che fortuna. Beato lui. Ho incrociato i flussi. Mister Creepy Console. Creepypasta. E zio Tibia più che altro, per come zio Tibia, no, zio Tibia lo tenevo per Francesco, che è secco secco, capito? Tu puoi fare zio Femore se vuoi. Zio Fester anche, volendo. Perché zio Fester? Bene, allora sentiamo. Stato, la voce che sentite, no, non me sto a sforzare, non ce l'ho proprio. Ah, state okay. Tranquilli. Allora, io sentivo prima gente che tossiva, cose brutte. Tutto bene, sì. Okay. Salutiamo anche Francesco. Intanto io sto cercando di sistemare delle cose mentre parlate, insomma, fate qualcosa. Allora, intanto salutiamo chi ci ascolta in chat, qualcosa, perché perdiamo qualcosa. Ma Michele, che fine ha fatto? La matrona della radio ci sta ascoltando, perché lei ovviamente, essendo Halloween, deve lavorare, non ci può stringere. Non può intervenire in diretta, ma ci ascolta mentre con la scopa viaggia qui per il circondario, infettando i dolcetti dei malefici bambini che bussano alle porte. Attenzione quando parli di scopa. Coi piedi, coi piedi. E bussano coi piedi, non sono nulla in contrario. No, i bambini bussano con le mani perché devono andare via a mani piene, arrivano a mani vuote, e quello è il problema. Noi sì, non siamo compatibili con questa filosofia. Ma infatti, a sale gli devi sparare. E salutiamo pure Pepperizzard che dice: questa è l'ora dei wizard. No, è l'ora delle streche. I wizard sono quelli di Windows, per chi non sa fare le cose. Adesso spiegala per i non nerd, spiega questa. Non ce ne sono non nerd in ascolto. No, ci sono, io non lo capisco, quindi. Ma non ci provare. E niente, insomma, tu e il tuo cervello positronico che oggi ci chiedevi questi dilemmi asimoviani sul gruppo interno, non mi ricordo qual era la domanda, se il cervello positronico viene da 9 di 7, no, sì. Se 7 no, di 9 viene volte. Dal racconto 9 volte 7. Sì, 9 volte 7. Ma probabilmente sì, le ispirazioni ad Asimov sono tante in Star Trek, insomma. No, però ci dice Francesco no. No, sto leggendo che Michele De Paola dice che i ragazzini da noi non ci tofa. Perché non ci tofa. Beh, lo sanno. Perché lo sanno che c'è la 220, c'è il filo scoperto sul citofono dei pizzi. No, secondo me avete usato il metodo più efficace. Avete applicato un nuovo nome sopra il vostro, vero? Giusto per stasera, e c'è scritta al citofono Anna Maria Franzoni. Esatto, A.Franzoni. E salutiamo Pierg che ci raggiunge e dice buonasera a tutti. Salutiamo anche rispondiamo alla domanda che ha fatto Peppe. Ci stiamo festeggiando stasera. Ma i non nerd sono i nonni dei nerd? Sì, esattamente. I non nerd. Bravo. E Michela che ci dice che sta cercando di digerire le due fette di torta simmetricamente tagliata, ma proprio perché sono state tagliate in maniera un po' fantasiosa, non le digerirei mai. Eppure Gualdi ci potrebbe ricordare. Se ricordassi. Sì, potrebbe ricordare dall'esperienza che abbiamo fatto in un ristorante indiano, che quello zucchero difficile da masticare è utile per la digestione, te lo ricordi? È vero. Vedi, Francesco anche può confermare. È da quel giorno che ho cominciato a digerire. Sa what? Come si chiamava? Da what? Esatto. Ragazzi, oggi occhio a parlare degli indiani, che dalle vostre parti Latina è abbastanza lontana. O proprio dalle nostre parti, no. Non direi. Guarda. Vabbè, più vicino forse, che a casa mia. Forse è più vicino a Napoli che a Roma, Latina. Alla fine sì. Ah, oddio. Se vai a vedere, sì. Quasi. No, ma ragazzi, per gli amici che stanno guardando anche la chat, guardate la simmetria perfetta con cui Michela oggi ha ricavato dalla torta pan di stelle 8 spicchi. Ragazzi, gente è finita all'ospedale quando l'ha vista. Io ve lo dico, qui. No, voglio, è una roba. No, vabbè, io pensavo che solo mio padre tagliasse le torte così. Attacchi epilettici a go-go qui. È successo di tutto, scene bruttissime. Ma devo cancellare. Madonna santa, proprio il vestito. La devo cancellare, è bellissima. Comunque non ridete troppo, perché questa è la sera del terrore, ragazzi. Scusate. Che poi, ragazzi, voi non so, no, se avete... No, la giro immediatamente a mia moglie, sentirete che grida. No, io non so se avete mai comprato una torta pan di stelle prima d'oggi. Io l'ho comprata stasera per la prima volta. Non sapevo che gli zuccherini te li mettono in una bustina, ce li devi li devi applicare come fosse di Ikea. È una cosa tristissima. Sì, li devi leccare e mettere sulla torta. No, ti devi assumere la responsabilità di compartecipare alla parte più dannosa della torta, perché ti scheggiano i denti quelle cose. Quindi... Ma comunque no, li devi incollare, cioè leccandoli e mettendoli. Anche comunque la disposizione degli zuccherini fatta sempre da Michela ha comunque il suo perché. Vedete come perfettamente sono allineati. Infatti, poi dai zuccherini era iniziato la cosa malvagia proprio. Cioè, poi io vedo il caos in quella torta. Sì, infatti. Ma lì è il simbolo dell'entropizzazione dell'universo. Cioè... Allora, io non so chi conosce Warhammer, però vi assicuro che è stato evocato Slaanesh con quella torta. Sì. Comunque, volevo raccontarvi quello che succederà questa sera. Questa sera, con questa atmosfera un po' cupa, racconteremo cose di paura, ma soprattutto, faremo anche una gara musicale, perché voi sapete, c'è il quiz musicale tra Walter, no scusa, Walter, non volevo chiamarti in causa, tra Marco Gualdi e Francesco Di Muro, che avranno a testa una canzone a disposizione per raccontarci in minor tempo possibile tutto il valore artistico del cantante che stiamo per ascoltare, insomma. E non ci ho capito un cazzo, ma lo farò. È quella la cosa più importante. Io inizierei proprio da Marco Gualdi. Adesso Marco Gualdi, da queste poche note che sentirà, ovviamente ci dovrà raccontare, insomma, vita, morte e miracoli dell'artista in questione. Non mi dice il nome ancora, aspetta, Dai, falla partire, insomma. C'è l'abbrivio, dai, giovino con No, Francesco, tu c'hai la tua, buono, basta con i rotti. Sei bella, senti come carica questa. Questa l'hai riconosciuta, dai. Non è molto horror, questa canzone. Mi sembra horror, insomma. No, non è horror, non è. No. È un brano che tu adesso ci dici chi è. Questi dovrebbero essere i Marci di Pisa, se non sbaglio. Non so italiani. O perlomeno... Forse questi sono i Rotten Potatoes. Sì, sono assolutamente i Rotten Potatoes. Con l'album In the Night, The Corpse of the Cat on the Table. In the River, ricordate che c'è sempre In the River. In the River Under the Moon. Bene. Praticamente questo, sì, raccontano questo, il disagio di un gatto morto sotto la luna. Sentite il suono. No, sì, il disagio lo stiamo sentendo. C'è tantissimo. Molto disagio. Infatti, non lo stiamo sentendo perché se tu parli non possiamo sentire la canzone, ma anche va bene comunque. Va bene, perché comunque ve la racconto io. C'è questo gatto che è morto sotto la luna nel fiume. Vicino al fiume. Near, perché dopo l'hanno trascinato fuori. Le forze del male l'hanno trascinato fuori dal fiume e l'hanno lasciato lì a decomporsi. E quindi è appuzzato per giorni. Eh sì, perché poi era pure bagnato, storia. Decomposizione più bagnato. Esatto, quindi la canzone racconta schifo. La lenta decomposizione del gatto sotto al sole vicino al fiume. Ok, poi tutto sommato non era manco brutta, senso. Non era neanche brutta. Fa un po' rocchettino anni 80, per anni 90. Il testo molto dark, molto gotico. Esatto. Sentiamo. Ha vinto anche il premio Mucca Marcia dell'85. Anche se questa canzone è uscita nel 93, però perché l'ha vinta prima. Perché parla del cane e del gatto putrefatto. C'è proprio un concorso che parla appunto di canzoni che trattano la decomposizione degli animali. E questo ha vinto praticamente diversi anni prima che poi fosse editata questa canzone. Vabbè, sentiamo il notaio. Walter, è giusto tutto? Guarda, sì, perché se dico paglia poi arriviamo a fine puntata che Marco non ha ancora finito. Quindi sì, va bene così. Ok, perfetto. Quindi primi 5 punti per Marco Gualdi, che vince insomma il suo brano dedicato. E... Ma qual è il premio? Aspetta. Lo scopri a fine puntata. Dopo, sai. Insomma. E di là la frutta che non hai voluto mangiare. Ci sono delle banane della Ah, ok, perfetto. Sono almeno due. Sì. Sono due. Sono quattro. Sono quattro. Che peggio. Ma c'è proprio un casco, quindi a voglia a te. No, c'è... due caschi, così almeno uno lo mangi. A caschi andavo direttamente. Assicurazione a casco. A casco, sì, quella è scritta con la K però. Ci alzi un po' il volume di Skype, perché i ragazzi li sentiamo un po', ma penso da lì, esatto. Skyrim. Oppure, Skyrim. Gridate tantissimo, l'altra opzione è quella. Ragazzi, ai due estremi nord e sud della nostra penisola, come sta andando Halloween? Tanto facciamo così. Sono andato solo dei ragazzini. Ah, beh, suonano voi? No, noi non ci sono. No, hanno canzonato, c'è stata Laura. Adesso vado a prendere qualcosa. Il tempo che è andato a prendere qualcosa. Così, con questa voce qua. Sono rotto il cazzo. Con la voce da ruzzisco quasi. Questo mi ricorda mia moglie quando suona, tipo, che ne so, quando tu ordini da mangiare a casa, no, Just Eat, e quelli citofonano, giustamente, che vanno anche un po' di corsa. E allora Michela, sì, arrivo dall'altra stanza, cioè non è che risponde al citofono, dice pronto, sì, guardi, sto arrivando. No, glielo dici da dentro casa, quindi quelli manco la sentono. E con calma va a prendere il portafoglio, la mascherina e cose, e io ogni tanto più mi intrometto e intanto apro sto povero Cristo che sta lì a aspettare, giustamente, quindi dicendo medaglia, esatto, insomma, beh, giusto. Michela, puoi confermare? Non lo sappiamo. Intanto Beppe Rizzard dice che dal suo profondo sud non si affaccia nessuno, sarà mica per il fossato coi coccodrilli. Beh, potrebbe, ecco, io non mi sbilancerei, però potrebbe, insomma. Beh, diciamo che io non c'entra niente. Quando eri futuro? Qualche anno fa, qualche bambino ogni tanto Michela non conferma. Vabbè, ma che mente sapendo di mentire. Quando un po' di qualche anno fa, qualche ragazzino ogni tanto citofonava, però diciamo che la paura che incombe sulla mia presenza, che alla fine se sparsa la voce non vengono più. Ma il segreto è fare una casa di pan di zenzero, così loro entrano, poi fai come la strega di Hansel e Gretel, solo che poi, siccome sei una strega comunista, ti rimagni. Che poi è quello che voleva fare anche la strega, no, di ma Hansel la strega e anche quella non comunista si rimagna. Ma non c'è riuscita, perché lei aveva catturato soltanto Gretel e Hansel è riuscito a salvare la sorellina. Io sento dei mostri che strigano. Beh, mi sembra giusto, è tema della puntata. Comunque, vabbè, volevo dire anche che... Ma il sacrificio umano verso che ora lo facciamo? Per sapere, perché mi devo organizzare anche per dopo. Più tardi. C'è un orario? Ecco, non so se probabilmente non avete sentito. Io non so. Allora, sì, Michela dice giustamente, ma quando fate il capo. Non so, Michela, sono Mercedes. Ah, è Mercedes. Ok, no, cioè, ammazza, fa il turno di notte, Mercedes. No, dicevo, se Marco. No, lei è Mercedes. Mercedes. E dice che dobbiamo pulire tutto se facciamo il sacrificio. Vabbè, ma tanto c'è Marco Gualdi che è esperto. Ha portato i teli. Ha portato i teli di plastica. Lui, esatto. No, più che altro perché c'è il. Ciao Mercedes, ciao. No, perché sennò arrivi al cane e cominci a prendere i pezzi. No. Ieri sera siamo andati a mangiare la pizza, non c'entra niente, però lo raccontiamo così. Siamo andati a mangiare la pizza. Aspetta, creo l'atmosfera. No, serve un'atmosfera massonica. Serve un'atmosfera massonica. Ah, già quella massonica. No, infatti, quella siamo andati a mangiare la pizza in questo posto dove c'era tipo la loggia. Com'è la massoneria della pizza? Sì, c'era questo simbolo che mi sembra che abbiamo messo anche nei gruppi. C'è questo spicchio di pizza con l'occhio in mezzo e anche in pizza we trust. Quindi proprio. Boh. Carino come cosa, insomma. Sì, però. Vabbè. Comunque, praticamente noi abbiamo prenotato perché doveva venire il nostro amico Michele Salvezza con la moglie e con la bambina piccola. E quindi praticamente poi dopo loro non sono venuti, abbiamo chiamato alla pizzeria, abbiamo detto guardate che loro abbiamo non vengono. Le riserve, abbiamo esatto, le riserve. Veniamo solo noi, va bene. Però questa cosa è stata terribile. Sì, perché la tizia, esatto, questa cosa ha causato un licenziamento prima di tutto. Il primo di una serie. Esatto, perché gli sei stata un'ecatombe di licenziamento. No, in realtà non avrebbe causato nulla se non fosse che Michela si è cantata sta casa. Subito, gli ha detto subito. Ma io ho chiamato, gliel'ho detto a lei. Ci ha detto una ragazza, ma non eri due, erano due. c'è per forza l'altra. L'altra, che poi quanto era carina, ragazzi. Vabbè, carina. Sì, sì. Però purtroppo adesso non l'avrà. A parte cose strane sotto l'occhio, insomma. Vabbè, c'aveva questa specie di non erano piercing, perché erano proprio sotto le pupille, quindi forse de perline, tipo, non so che non moda so, sia. Non lo voglio manco sapere, bella, non mi interessa. Bella, comunque, bella ragazza. La cosa particolare è che giustamente, cioè, era rimasto sto seggiolino per i bambini, praticamente. Ma non era per Marco quello? No, poi a un certo punto noi abbiamo detto, guarda, noi gli avevamo detto che non tool. Allora, tool. Che il seggiolino per i bambini lo puoi levare, perché tanto il bambino se lo siamo già mangiato. Esatto. Quindi, insomma, era per far capire questa battuta. Invece non ha capito. Adeguata da Ollo. No, quindi è rimasto lì. Non ha capito perché aveva capito che alla fine della serata l'avrebbero licenziata. Sì, sì. Anche perché, diciamo che l'aver preso la rettifica della prenotazione era solo l'inizio, praticamente, di quello che, fino a che addirittura ha portato a Michele il dolce sbagliato. E a un certo punto gli ha detto proprio, cioè, con gli occhi, dicevo, ti prego. Lo vuoi lo stesso, se no te lo cambio. Che bella questa cosa, ma guarda, mi sono sbagliato io, ma non è che te lo mangeresti lo stesso, se no mi frustano. Esatto. Cioè, vedi queste cose che ho intorno agli occhi, non è moda, me le hanno infilzate. Esatto. Perché mi ero già sbagliato, mi mettono una perlina in faccia. Esatto, sono delle micro esplosivi che praticamente è la terza volta che mi sbaglio e non c'è la quarta. Esplodono. Esatto. Ragazzi, questo, insomma, sai, quindi Michele è dovuta mangiare un dolce che non voleva, chiaramente, e secondo me ci hanno anche sputato su. Vabbè, ma comunque era buono, cioè non buono era però minuscolo, devo era dire, era anche predigerito, insomma, quindi va tutto bene. Poi ho detto, guarda, io voglio la panna cotta con il topping di fragola. No, fragola non c'è, c'è frutti di bosco. Ovviamente, come è arrivata? Il topping con la fragola, quindi c'è proprio. Ma perché sono cose chimiche? Il topping frutti di bosco e il topping fragola in realtà sono uguali. No, sono diversi. Diversi. Allora, è sciroppo per la tosse in tutte e due. Ma quello sicuramente, quello è sempre roba chimica, però diciamo che quello fragola è rosso, invece quello frutti e bosco è più sullo scuro, capito? Dipende da quanto quanto l'hanno lì diluito con la spugnazza. E c'era, tra l'altro, qui concludo questo bellissimo racconto, c'era il famoso non è stato mio. Torna in casa e chiamo l'ambulanza. Cioè? Così? Sì. Vabbè, chi è che ha chiamato l'ambulanza? Infatti, cos'era? Cos'era? Scusate, vabbè, comunque, c'era il famoso tortino di cioccolato col cuore caldo, che, insomma, è rinnovato. Che ti fa cagare. È rinnovato, che quello non lo prende più nessuno. L'abbiamo matto? Matto da cagare? È una di quelle cose che lo puoi prendere. È andato di moda per un sacco di tempo. Sì, però è molto anni 80 il tortino. Diciamo che qui ancora qualche posto lo propone ancora. No, diversi posti, il problema è però gli stessi posti dove fanno le pennette alla vodka. No, le pennette alla vodka non è il cocktail dei gamberi, ragazzi, o la cascata. A me piaceva pure il cocktail dei gamberi. No, sì, però molto. Comunque, il tortino al cioccolato col cuore caldo lo puoi mangiare al ristorante che è a 20 metri da casa tua. Allora, attenzione, perché Michela ci inserisce dei dettagli nel contesto. Era un dolce buonissimo e io ho fatto la spia perché la cameriera capo è amica mia e quindi lo deve sapere che la sua sottoposta deve che essere frustrata. Che poi non frustrata. È vero che è amica sua, soltanto che lei si ricorda che si chiama Michela. Dice anche se io sempre, non so ciao perché, mi, ciao mi. Dice ma anche Michela se io non so perché siamo diventate amiche o quando. Esatto. Ma lei mi adora. Esatto. E guarda, questi sono tutti discorsi da psicopatico, però. È vero, poi se la canta e se la suona, cioè, però è vero. Ripeto, però ragione. Michela non sa come si chiama sta ragazza. Esatto. Però sono amicissime. Però è incredibile, noi ci andiamo una volta, cioè, massimo due volte l'anno, e quella si ricorda che si chiama Michela, quindi vuol dire no, che si chiama Michela. Ciao mi. Quindi può essere pure Michela, pure Micina, Micina. No, è mi, è amica, è come mi, amica mia. Amica mia. Bella mi, bella mi. Michetti, Michetti. Michela, Michetti. Michela, Michetti. Bene, Francesco, invece tu che ci racconti? Dici il tuo racconto. Horror. Di quella volta che ti sei mangiato un bambino anche tu. Madonna, ma cos'è? Non ho mangiato. Ma c'è la televisione accesa, che posso fare? Ah, no, vabbè, però così. Vabbè, comunque su programmi che coerenti con la serata, quindi va bene. Ok, va bene. Stanno a vedere il Razer. Se volete, io ho Chucky la bambola assassina in braccio in questo momento. Va bene, abbiamo sentito, va bene. Attenzione, fa perché Peppe Rizzar sgancia la bomba in chat. Provo che dice le donne non hanno amiche. E non è che l'ha detta proprio sbagliata. Beh, vabbè, dai, sembra un po' l'esagerazione. È vero che secondo me la capacità di sopravvivenza di un'amicizia femminile è tipo diversamente proporzionale a qualche altra cosa. È simile praticamente alla capacità di fare amicizia tra Corea del Nord e Corea del Sud. Esatto. Che lì ci provano pure, ma poi. Però d'altra parte, finché non hanno non si ricordano perché sono amiche, il problema non si pone. Infatti, però così. Si ricordano per sempre perché hanno litigato. Sì, quello sicuramente. No, veramente no. Veramente ad anni di distanza subentra quel fattore che ti si incancrenisce il rancore. Però poi dopo, se uno dice ma perché? Lo so io perché. Però invece non te lo ricordi più. Sì, lo so io di circostanza per tenere la posizione. Esatto, mica perché poi mica te lo ricordi più. Io sai che a volte me ne so. Vado a chiedere a lei. A me mi è capitato con un mio amico che siamo stati. Cioè, non ci parlavamo per tantissimi anni, fino a che un giorno venne lui a dirmi: ma tu ti ricordi perché abbiamo litigato? Io ho detto: no, io non me lo ricordo. Però deve essere stata una cosa seria. E magari era una cazzata. E da lì siamo tornati amici. Quindi, insomma, adesso. Sciola. Sì, anche con Luca, però vabbè, con Luca Sciola quando avevamo discusso non eravamo ancora amici. C'era un motivo. Vabbè, ma io direi di non andare a scavare in questi contesti, esatto, in questi racconti. Io vi scaldo l'ambiente. Sulle mani. Sulle mani. Dai, Gualdi, ti voglio vedere che ti muovi. Cassa. Bravo, bravo, guardi. Di spavento, notte nera, di terrore. Si è mosso, guardi. Un po'. Per quanto si possa muovere, Gualdi, diciamo. Il tetraplegico si muove di più, però. Con un rantolo agghiacciante, l'assassino col coltello squarta e taglia. Puccio, che canzone è? Bam, il mostro umano? Dice Michela, però, grande rispetto delle mie nemiche, quindi lei è consapevole di avere delle nemiche. Sì, come no. Mo ci arriviamo. Guarda, questa canzone era bella. Scusa, ma c'è un bel figlio della lista dei nemici mortali, Michela. Non ho capito, Puccio. Michela, la lista dei nemici mortali. Sì, no, Michela. Come Sheldon di Pigmentieri. Michela c'ha. Allora, le migliori amiche di Michela sono quelle che vede una volta all'anno. Cioè, proprio. Proprio è una cosa sistematica, perché lei più di tanto poi c'ha la modalità espulsione, Michela, cioè lei mette le persone in condizioni di disagio e non si fanno più vedere, giustamente. Però lo faccio anch'io, quindi su questa cosa io e lei siamo una squadra, insomma. Però finiamoci di sentirci questa bellissima canzone. È la cosa che vi unisce. Mi sa che è finita, però. No, no, ciao, no, ciao. No. Notte bianca di spavento, notte nera di terrore, acqua, pioggia, neve e vento. Esatto. Io faccio ruttore. Sode un passo strascicato, sode un colpo di martello, scende a terra l'impiccato. Tu sei di Luca Casciola, questo è per Luca Casciola. È lui, è lui. Dove tocca fa un macello. È Nico Fidencasciola. Adesso dice cippa di mare. Il cielo è sempre nero. È vero, un po' lo ricordo, è vero. Qualcosa c'ha, sì. Luca Casciola è più stonato, però. Più veloce del pensiero. Non mi fate incazzare. È anche un po' più vivo di Nico Fidenco, però. Sì, è. Questo non lo sappiamo. Sì, magari conosciuto quei pezzi di Nico Fidenco. No, non lo sappiamo perché mo è tanto che non lo vediamo. Abbiamo scritto l'altro giorno e dice che lui è ancora prigioniero. E... però ha risposto, è già un buon segno. Sì, ma questo sì, che ne sa? Lui? Che numero è, quindi? Che senso? Sei un prigioniero, deve avere un. Ah, io cioè... sono il numero 7, lui. 99. Poi che sembra 69. E vabbè, vabbè, dai ragazzi, continuiamo insomma con questa puntata. Vogliamo parlare di cose serie oppure vogliamo parlare di stronzate? Perché se non parliamo mai di cose serie, perché dovremmo farlo stasera? Esatto, però l'intenzione di questa sera era passare Halloween insieme raccontando cazzate e stando in compagnia, insomma. Ma senza dolcetti, perché se lo siamo finito. Sì, siamo già magnati, tra l'altro. Ma me la posso raccontare io una storia del terrore? Vai, ci piace, bravo, ci piace. No, sì, no, ma in realtà è una roba... psicologico? Psicologico. Ah, psicologico. No, ho notato una cosa, le ho detto a mia moglie, continua a dire che in realtà sono io che sono psicopatico, non è quello il problema. In pratica mia figlia ha cominciato a fare la prima elementare, hanno riadattato la scuola dove io ho fatto i primi 3 anni del liceo classico, è diventata ora la scuola elementare dove va mia figlia. Io vi giuro, tutte le volte che l'accompagno e la vado a prendere e mi avvicino a quella cazzo di scuola, mi sento una merda, c'ho paura, come quando andavo in quarto ginnasio. È il fantasma del vecchio bidello. C'ho 43 anni, ho una carriera, una famiglia, ho superato cose, appena mi avvicino a quel posto mi sento una cacca, ragazzi, è bruttissimo, è proprio paura, non so come dirvelo. Lì ho il demone della professoressa di scienze o di matematica. No, di italiano, latino, greco, storia, geografia, salsa e merengue. Allora dai, facciamo psicoterapia. Però vedo qua... vedi gentile. Io sì, la vedo dura questa questione. Qui ci deve aiutare Francesco, perché sicuramente è stato abusato dal bidello. Però sta a te, Francesco, farlo emergere. O è stato abusato dal bidet anche un po'. Peggio. Noi pensiamo sempre traumi come qualcosa di scioccante, morti, stupri, violazione, il sangue, il fuoco, e l'esperienza del fuoco va a consiglio. Questa è una citazione. Comunque Puccio, parlaci un po' delle tue esperienze in questa cacchio di scuola e di perché c'hai il dente avvelenato, ma tu con dentiera con il classico. Sì. No, non con il classico, in realtà non contro chi l'ha fatto a forza, vi assicuro che nella mia classe ce n'erano parecchi. Io lo dico sempre, io ho sbagliato, ma l'ho fatto per scelta. Cioè mi prendo la responsabilità di quella cosa, però bisogna dire che quando vi raccontano che il liceo classico è un liceo tendenzialmente classista dove vanno avanti i figli di papà eccetera, è vero, vi assicuro che è assolutamente vero, ed è vero nei licei delle grandi città come in quelli piccoli di provincia come quello che ho fatto io, e io ne sono la prova. Io ho fatto 5 anni senza farmi bocciare, prendendomi 2 volte 2 materie a settembre, tra l'altro assolutamente a fantasia, una volta a storia dell'arte, ma sono sicuro che io non sono mai stato promosso per meriti, sono stato promosso per il nome della famiglia, non lo so, non ho idea. E gente che sicuramente studiava più di me, meritava più di me, gli hanno spezzato le gambe, me ne rendo conto, lo so. Quindi quando vi raccontano sta cosa, bene. In più il classico, c'è un problema in Italia che veramente fa paura, continuano a dire che apre la mente meglio di altre scuole. È apre la mente. Ed è una, non è meglio la droga, scusa Frank. Sì, l'LSD per esempio. Beh, per esempio in certi licei classici romani ne gira le droghe perché aprono la mente. Beh, mica solo nei licei classici, Simone. No, nel senso che è un binomio indispensabile, come si dice, no? Che aprire la mente. C'è un racconto da fare, ma non credo che lo farò in questa sede. Aspetta, credo sia qualunque reato fosse, ormai è prescritto. No, ma non è per reato. Okay. In un'altra situazione. Runtime by night. Scusate, io sono arrivato a 43 anni. Questo nella pure runtime. No, io le canne me le sono fatte nel bagno del liceo. Quindi scusate, Pierg, intanto doppietta libera. Grazie dell'informazione. Fateli cazzi tu. No, scherzo, però. Simone, sento che vuoi dire qualcosa sulla domanda. No, in realtà no, mi dispiace pure perché tutto sommato alla fine sono istruzioni. Perché sei stancato per farne due. Esatto. Purtroppo il problema è che poi se stanca non ne fa più, capito? Vabbè, comunque, no, al di là di questo non mi interessa. No, dicevo, c'è un racconto che farò nella prossima Runtime by Night, che è un racconto, di solito si dice di sangue e merda, invece in questo caso è di droga e merda. Okay. Di droga e merda. Perché alla fine c'è sempre la merda. Cioè, hanno tagliato qualcosa con il lassativo a scuola tua. Ma in realtà puoi dirlo anche qui, perché questo non deve essere un crossover. Questo è un crossover, infatti. Sì, però no, ci vuole l'atmosfera. No, lo so, però ci vuole l'atmosfera giusta. Non mi sento. Allora aspettiamo più tardi. Sì, mica andiamo avanti a oltranza. Fino a che non dirai questa storia, ovviamente. Esatto. Te la caveremo con il forcipe, scusate. Forcipe, visto che si parla di merda. Fortnite. Comunque. Va detto che il VAR sta verificando il secondo gol di Ibra. Bravo. Ce lo sta dicendo Pier G, in realtà. Intanto ha fatto il terzo. Nel frattempo sono andati avanti. Perché, vabbè, oggi col VAR succede anche questo, insomma. Ma Marco, un racconto di una volta in cui veramente ti sei cagato sotto. Dai, bello, dai, provaci, che secondo me c'è stato qualcuno. Non abbiamo mai parlato in Runtime Light. Però lui non c'era, lui non c'era. Quindi, è vero, non c'era. Vedi, ma lui nel senso di, tu, dici, tu devi fare fatto... la polemica a sbafo, vedi, non c'era, perché insomma... metaforico. Metaforico. Dentro, è anche un po' metadentrico, esatto. Annullato, annullato. Mannaggia, povero Ibra, sarà dispiaciuto sicuramente. Guardi, una volta ti sei cagato sotto, ma non, tipo, non cagato sotto fisicamente, dico che ti sei spaventato veramente, una volta proprio che cazzo cazzo. Millu millu. Fatto che non mi venga in mente, cagarsi sotto è segno di paura. È sicuro che tra l'Italia e la Svizzera io mi sono spaventato tantissimo. Cioè, ci sono ancora un cesto. Poi, tra l'altro, la cosa bellissima, questo è dobbiamo raccontare la civiltà della Svizzera, perché se non fosse stato che ai lati dell'autostrada svizzera ci sono dei cessi così a caso, sarebbe stato un disastro. E io ho visto un uomo scavalcare il muretto dell'autostrada. Ma per andare, bello che non era neanche l'autostrada, cioè è stato prima dell'autostrada. Sì, vabbè, poi autostrada in Svizzera è un concetto relativo, cioè, beh, abbiamo scoperto anche in Germania, eravamo convinti fosse una statale, invece era l'auto. Sì, però, però in Germania già ci sono anche strade più grandi, invece in Svizzera proprio per limiti oggettivi, insomma, più di tanto, no? E quindi guardi, non ti viene in mente una volta ti sei proprio spaventato, cazzo cazzo cazzo cazzo, è morto. sto pensando ma non... aspetta ma faccio una domanda più specifica. Vai. Marco, parlami quella volta in cui proprio hai fatto cagare sotto qualcuno. Anche, secondo me è più facile che hai fatto magari qualche scherzo, hai fatto venire i capelli bianchi. No, lui non ha bisogno di fare scherzi. Non gli viene in mente manco questo, niente. No, è proprio una tabula rasa. Quando tendenzialmente non faccio paura alla gente, non mi vale far paura alla gente. Lo dici te che non fai paura alla gente. No. Allora, è così che le becca. Allora, Michela dice in chat: io ce l'ho, ma è un aneddoto che riguarda te o che riguarda Gualdi? Perché se riguarda Gualdi, ti alzi dal letto e lo vieni a raccontare al microfono. Sì, vogliamo sapere. Lo voglio sapere anche io, soprattutto. No, io non mi viene in mente qualcosa che ho fatto spaventare qualcuno così, oddio. O che qualcuno ha fatto spaventare a te. O anche necessariamente, perché può essere pure con qualcosa in cui... Ragazzi, no, perché Michela ci ha dato un input che adesso vogliamo sapere. Allora, sicuramente non si è cagato sotto lui perché lui non se ne è reso conto. Ed evidentemente se ne è resa conto Michela, che dice una volta si è addormentato mentre guidava. Ah, sì, è vero. Io sono quasi morta, in realtà non abbastanza, perché fortunatamente, no? Oppure sei morta e non lo sai. Lo sai, è solo la sei solo circondata da persone che vedono le persone morte. Comunque, ragazzi, voi ci scherzate, ma io sono convinto, questa teoria non so se credo di averla già raccontata. Quando avevo 20 anni e facevo contemporaneamente, io lavoravo, facevo il servizio civile e cercavo anche, insomma, di ritagliarmi qualche ora di divertimento da una cosa e l'altra. Vabbè, e ti drogavi. La mattina dovevo essere alle 7, mi pare, a Capannelle a fare il turno di servizio civile. Quindi io, dopo aver lavorato la sera fino alle 10 e essere uscito la sera, dopo 2 ore di media di sonno, mi mettevo in macchina dalla mia abitazione, andavo fino a Capannelle. Io sono strasicuro che, visto che era un tragitto che conoscevo ormai bene, di aver più di una volta di aver dormito mentre guidavo, io ci metto proprio la firma che è successo. Ma io penso che sia capitato a diverse persone per tragitti brevi, ma sono sicuro di essermi addormentato alla guida. Ok, mi avete raccontato, quindi sei morto anche tu. No, evidentemente non è mai successo niente, però che mi avete ricordato un incipit di un racconto di Ratman che dice: io voglio morire nel sonno e non come mio zio, e non gridando come i passeggeri dell'autobus che stava guidando. Esatto. Oh. Sono riusciti a svegliare. Ratman è Ortolani quando diventa amaro. Comunque sono belli i dettagli che aggiunge Michela alla storia di Gualdi addormentato, che dice: lei è quasi morta e accanto a lui c'era Fabrizio, che è peggio, sarebbe da descrivere se non lo conoscete, che rideva mortacci sua. Rideva perché era ubriaco, chiaramente, quindi uno si è addormentato, l'altro era ubriaco. Ma io non ricordo che ci fosse Michela in quella volta, quindi... Ah, perché è stata sbalzata fuori dal parabrezza. Questo non vuol dire molto, però. Comunque rigore per il Milan. Vabbè, però c'è il VAR. Partitaccia, insomma, ok, lasciamo perdere. Allora, hanno dato il rigore, lo hanno rivisto al VAR e ora sta. No, rigore su Ibra che si realizza. Vabbè, ormai è diventata la telecronaca, ragazzi. Allora ditelo che tutto il calcio minuto per minuto. Non so, romanista. Possiamo chiamare anche, non lo so. Come si chiama il giornalista, quello che gestiva la domenica sportiva, che è andato in pensione l'anno scorso? Chiamiamo uno che è morto, insomma, oddio. Cioè, perché dobbiamo chiamare uno in pensione? No, vabbè. Evocate Bruno Pizzul, è vivo Pizzul, sì. Qualcuno Pizzul, aveva chiesto anche che arbitrasse la finale dell'Europea, che facesse la telecronaca della finale dell'Europeo, perché vi ricordate che il telecronista Rai deputato era diventato positivo al Covid, quindi non poteva fare la diretta. Già, deputato. Ma io sto rigore non lo vedo, scusate, c'è il fuorigioco di Ibra. Vabbè, ormai tutti a pensare alla partita. Vabbè, raga, allora andiamo a vedere la partita. È diventato pure runtime. Runtime sport, esatto. Calcio. È diventato time calcio. Non so se vogliamo telefonare stupide creature, magari ci fanno un jingle al volo. Visto che ci parlavamo dal bar, sì, 1-0. Guardate, io vivo nel terrore che prima o poi Simone voglia fare la domenica sportiva sul runtime. No, tu vivi nel terrone, è diverso, perché il terrore, sì. È un sogno bagnato di pizzi, quello di fare la domenica sportiva. No, la domenica sportiva no, ma in realtà è da anni che ci pensiamo di fare una trasmissione di calcio, solo che dovremmo trovare qualcuno che la possa fare. Fortunatamente noi non ci capiamo. No, ma non è per quello, perché sennò poi finisce e litighiamo, capito? Invece bisognerebbe trovare una persona esterna, che al massimo litighiamo con lui e lo mandiamo via. Ma noi non possiamo litigare, perché non ci frega un cazzo a noi. No, vabbè, però so, per esempio io e Alex, per esempio, siamo persone che se la prendono poi alla fine, tutto sommato, come anche normale che sia, insomma, tutto sommato. Perché ricordiamo, però, se volete vi dico tutto sommato anche un po'. Prego, Puccio. Somma tutto. Dicevo, perché tu tradizionalmente non sei tifoso, quindi. No, nel senso che a me, lo dico, l'ho detto già diverse, a me fondamentalmente del calcio non me frega, cioè non è che sono un appassionato che si guarda le partite, tutte le partite del Robert Gianni. Io guardo solo le partite della Lazio, quindi alla fine tutto il resto non mi frega a cazzo. Quando ti dicono visto la partita. Mi hai ricordato, cioè, c'è anche la storia del terrore, legata alla tua squadra di calcio. Sì, tipo? La morte di Rececconi per sbaglio. Vabbè, non è del terrore, quella è una storia di stupidità e di armi da fuoco. Esatto. Di armi da fuoco. E non c'erano ancora i decreti di Salvini, se no pensa. No, era peggio, perché poi in realtà cioè, quelle sono cose che succedono. Cos'è? Ma che è? Non lo riconoscete? No. L'ha segnata a Roma? Che è successo? No. Ma cos'è? Canzone, Nightmare. Ma poi muore. Ma sempre muore, esatto. Cioè, è quasi al limite. Ma che è? Mi sembrava appropriato per Halloween. La finisce con una bestemmia. Sembra qualcuno che muore malissimo. Ma che cosa? Ho capito, ma cioè. No, non è vero, uno non può fare un urlo così lungo. Cioè. Possibile che non lo riconoscete? No, non lo riconosciamo. No. È l'unica persona che riesce a respirare mentre urla. In tutto il mondo. Perché riesce a mandare dentro l'aria, esatto, urlando. Chi può avere questa dote, ragazzi, nel mondo dello spettacolo? Ok, Richard Benson. Richard Benson. Ma io non credo che sia vera questa cosa. No, c'è il video. Non è che. Mazza, allora va bene. Oddio, manda sto video, link a sto video, perché non l'ho mai visto. Perché mi sono perso questo? Sono 1:10 di urlo. L'urlo più lungo di Richard Benson, ragazzi. E beh, ok. Cioè, no, l'unica cosa per la quale merita di essere ricordato. Lui è il pollo, tra. Ma in quel esatto, caso è il pollo che va ricordato, non lui. Il povero pollo, tra l'altro. Pollo. Perché tutti gli yogurt che ha maltrattato? Ma infatti, secondo me, più gli yogurt. Perché il pollo, secondo me, è pure uno spreco, tutto sommato. Cioè, se ci pensi, uno se lo sarebbe potuto mangiare. E poi se l'è mangiato lui. Guarda che quando gli tiravano, lui si portava a casa. Si mangiava però direttamente senza cosa. Lo yogurt andava sprecato, ma il pollo quello sono. No, vabbè, raga, io ve l'ho spiegato in realtà più volte, perché c'era la moglie di questo mio socio che lavorava al supermercato dove faceva la spesa lui ed Esther. Li compravano loro e poi li portavano nel luogo dello spettacolo, dell'esibizione. A maggior ragione vanno magnati. Ah. Esatto. Vabbè, comunque, ragazzi. Vabbè, comunque, quindi insomma non ti ricordi una volta che tu invece ti ricordi una volta che ti sei proprio spaventato? Ma io... Ma anche per cose occasionali, no, cioè. Questa cosa non c'entra con Halloween, ma c'entra col carnevale, quindi è azzeccata. Io ero piccolissimo, credo 5-6 anni, era carnevale una sera. A un certo punto bussano alla porta, io lì quando ero piccolino avevo l'abitudine che mi lanciavo alla porta e andavo ad aprire. Apro e mi trovo sti tre ragazzetti con le maschere da mostri di carnevale. Io proprio non me l'aspettavo. Ho cacciato un urlo di terrore che voi non ci avete un'idea. Penso di essere anche sbiancato, perché quando poi è arrivato mio padre e mi ha visto terrorizzato, perché nel frattempo questi si sono dammenato, no, pure il resto. Mi ha visto talmente spaventato che se l'è presa talmente tanto che ha preparato una bottiglia d'acqua. Perché ha detto: se cazzo, se ribussano li fracico. Ammazza, in vendetta. Pure, no, beh, ma io mi ero proprio terrorizzato. Ti ripeto, avrò avuto 4-5 anni al massimo. E da quel giorno non hai più aperto le porte. Da quel giorno non mi sono cresciuti i capelli, non sono cresciuto in altezza. Ma devastato. Beh, io devo dire che ci sono state tantissime volte che mi sono spaventato proprio di mio, cioè proprio. Insomma, anche per cose stupide, tipo, che ne so, un'anta dell'armadio che si apre, un'ombra che penso di aver visto e che non ho visto. Però l'ho raccontato proprio l'altro giorno, proprio la volta in cui proprio ho sentito letteralmente che cosa significa cagarsi sotto dalla paura, perché proprio ho sentito tipo una sorta di rilasciamento dell'intestino, proprio una cosa... No, che te sei proprio cagato sotto, no, senza paura. Non è il tortino, pizzo. Esatto. Il tortino. Non mi sono cagato sotto, però ho sentito proprio, cioè, un effetto strano, un gelo proprio dentro di me. Quando sono andato a suonare a casa di un amico mio, il padre era carabiniere, e lui praticamente ha aperto la porta e c'avevo la canna della pistola praticamente qua in mezzo agli occhi. Ha citofonato Ciontoli per caso? E devo dire che qua volta mi ha fatto. E hai detto: scusi, lei spaccia per caso? No, Marco, lei è come la storia dei Ciontoli, che è agghiacciante, ancora non ci posso pensare. Però. Non so chi sia. Sono ricordato da molti suoi. Ho avuto paura. Ciantini, ragazzi. Posso? Vai. Anche se in ritardo. In realtà, poi è una cosa bruttissima. No, vabbè, quando c'è stato il terremoto quello forte? Cioè, sì, fosse stato uno solo del terremoto. Ti sei talmente spaventato che ti sei addormentato sotto l'anta dalla porta. Com'era? No, quello forte è stato quello che ci fu. Quant'è? Nel 2000. Ce ne sono diversi. No, 2016. Ci sono quello più forte degli ultimi anni. Tra l'altro, stanotte c'è stato il terremoto a Roma. Ah, sì? Sì. Quello praticamente che nel 2016, quando è stato? Che era Aquila? No. No, l'ultimo in Umbria, col Fiorito, Umbria. Ariccia, là, Amatrice, quelle zone lì, sì. Esatto, lì, cioè, vedendo proprio i muri che si muovevano, insomma, ha detto: cazzo, qua è brutta, insomma, quello sì, effettivamente è stato un minuto. Ma perché tu poi sei in terzo, quarto piano, che sei terzo piano, terzo quindi piano, sì. Alla fine sì, secondo me si risente di più. Noi qui diciamo che lo sentiamo poco il terremoto a piano terra, ma c'è stato quello là famoso dell'Aquila, che c'era la porta che faceva sbè, la porta era chiusa e noi pensavamo che era il gatto che la stava più a botte, perché no, più beh, capito? Più cadenzato. Quindi pensavamo che era il gatto che sbatteva perché voleva entrare, no? Cioè, nel senso, era il gatto Satana, per cui già era ceppa, la ceppa. Già il fatto che era ceppa. Ma voi lo sapete che a volte, e questo rientra un po' nel contesto di paura, a volte ceppa, se tu lasciavi uno sfilaio di porta, se vedevano proprio le zampe che si infilavano, tipo lo zombie che vuole entrare dentro la porta. Cioè, era terribile quel cazzo di gatto. Comunque, se non c'era gatto zombie, era proprio terribile. Poi era rossa, quindi era proprio un animale. Con questa cosa della pistola puntata in faccia, devo dire, ma lì ho sentito proprio il gelo dentro. Insomma. Non deve essere una cosa simpatica. Ma perché deve puntare? Attenzione, c'è un cartellino rosso. Perché? Cartellino rosso, ragazzi, sono brutte storie. È stato espulso Satana. È stato espulso uno del Milan. Quindi, il diavolo, è stato espulso il diavolo. Quindi attenzione, perché potrebbe. Ribaltone. Potrebbe succedere tutto adesso in poi, insomma. Si sta ribaltando la situazione. Si sta ribaltando le situazioni, esatto. Vabbè, dai. E invece tu, Puccio, lei. No. Prego. Non ho capito perché questo, ma questo a prescindere accoglieva tutta la gente con la pistola. Questo non ho no, capito, non perché lo so, l'unica, non c'ho idea, ti devo dire. E non gli stava simpatico Simone, probabilmente. No, voleva far simpatico, voleva far vedere che c'aveva la pistola dentro casa. Io non lo so. Lui è carabiniere, Puccio era di sinistra. Sì, Puccio. No, Simone il padre era carabiniere. Ah, questo è il figlio che aveva la pistola del padre in mano. Pensa che coglione il padre. Questa è la cosa un po' più inquietante. Insomma, poi avevo capito che non soltanto lui la teneva lì vicino all'entrata, sta cazzo di pistola, ma c'erano anche altre armi dentro casa. Beh, a quel punto, insomma, avranno avuto parenti texani, magari non lo sapevi. Non lo so, non lo so, non lo sapremo mai. Bastano calabresi, bastano calabresi. Questo. No, vi assicuro. No, i calabresi sono lupare, non hanno armi qualunque, non hanno pistole. Francesco, invece il tuo momento horror. Ma io faccio cagare sotto la gente invece, però e fate parlare Puccio. No, io dal vivo cagato sotto quando è nato mio figlio e ho assistito al parto. Il terrore, veramente, ragazzi, il terrore fa veramente spavento. Beh, io se ho saputo dei genitori, cioè dei padri che sono cascati per terra, insomma. Beh, io cioè, ma perché ti è perché ti si è distrutto il mito della sala giochi? Qual è il cioè cos'è che ti figurati, sono figlio di un genitore. L'eleganza di Sbarro è nota, insomma. Stai guardando il capello. È stato quello, è stato in realtà perché c'è chi la bambola assassina che in questo momento mi sta girando intorno, è nato che pesava 4,1 kg, una roba del genere, cioè è nato alto e grande. È stato impegnativo. Quindi, insomma, sì. Sì, non riusciva a uscire. E a un certo punto ho dovuto tagliarlo. Mio padre, fatto come Alien. No, esatto, una roba del genere. A un certo punto ho visto mio padre al guardarmi in faccia e dire esci. In genere quando parla in quella maniera non sono buone notizie e io ho avuto mi sono veramente cagato addosso in quel momento. Poi in realtà è uscito anche lui e ha detto ora ci riproviamo, se non funziona facciamo il cesareo, tu stai tranquillo. Io stavo a un passo dall'esaurimento nervoso, ma proprio 10 centimetri da quel momento. Ho avuto veramente paura tantissimo. Ha capito? Dopo se noi facciamo questa cosa, ha capito? Però in realtà poi venendo a quello che stava dicendo Simone, di gente che in sala parto ha avuto reazioni in consulte, ok, ci sta che un uomo che magari vede per la prima volta da sveglio da dentro una sala operatoria abbia delle reazioni, diciamo così, strane. Quello che capita spesso e che si dice poco è che le reazioni in consulta spesso sono delle mamme. Mio padre, quando sta di buon umore, racconta che una volta una signora ha preso il braccino del marito e stac! Ma infatti i padri vengono accolti in sala parto proprio perché devono diventare le vittime sacrificali per evitare che facciano male al personale. Stac che vuol dire, scusa? Stac che vuol dire? Gli avrà rotto il braccio. Gli ha spezzato il braccio. La Madonna, che è? Sì. Gli ha rotto il braccio. E in pratica mio padre racconta questa storia di averlo guardato e aver detto all'infermiera prendilo e portalo in ortopedia, perché era proprio visibile che gli aveva rotto. Deve essere stata una roba abbastanza agghiacciante da vedere. Comunque veramente, se volete dormire male la sera, guardatevi i video dei parti che stanno sui canali di medicina. Il video delle feste, sì, ok, va bene. Sì, sì. Vai. I party. Vieni bello di papà che ti faccio vedere il filmino di quando sei nato tu. Sono suscettibile a queste cose, mo non vorrei deludere. Walter, se veramente non sei suscettibile, mio padre c'ha i DVD di alcuni tipi di intervento di parti cesari fatti in maniera particolare, te li portiamo, te li vedi, se resisti bene. Io non sapevi VHS. Sarei abbastanza pronto a sperimentare il fatto che potrei non battere ciglio. Sono sensibile a tante cose, ma non a queste. Francesco, il fatto dei VHS è un'altra storia dell'orrore che riguarda mio padre, che tipo nel 2015 continuava a fare le VHS delle ecografie perché non sapeva usare il masterizzatore DVD dell'ecografo. Quella non so. Beh, nel 2015 ci voleva già quello con la chiavetta USB, voglio dire, già il CD era anacronistico nel 2015. Sbano Rizzard ti chiede se ti serve un consulente in materia di armi da fuoco da taglio. In questo momento non devo assassinare nessuno, mi dovesse servire glielo farò sapere. Vabbè, è importante perché insomma sono sempre bei messaggi. No, poi comunque conosco gente diciamo un po' più dell'area est che con due kebab fanno tutto web radio, loro. Un po' diventiamo noi, No, dico, conosco gente un po' più dell'area dell'est che per due kebab fanno tutto loro, gli dai solo il nome. Roma Est. No, Romania Est. Comunque no, dai Francesco, dici la tua. Siamo curiosi. Che cosa? Della tua storia horror. Ma non, la tua paura, non ne ho la tua paura che hai subito, che hai espletato. Te la dico io. Per esempio, 5 milioni di morti provocati dal coronavirus nel mondo, ma l'OMS stima che la cifra possa essere 3 volte superiore. Vabbè, si è sempre detto fin dall'inizio che i casi non diagnosticati sarebbero, ha una stima prudente, il triplo di quelli diagnosticati, perché tutti quelli, quindi 15 milioni di morti, potrebbe darsi in 2 anni, mi sembra un po' un fai 12, va. Beh, vabbè, Simo, guarda che anche soprattutto nei paesi più poveri anche le polmoniti, passami il termine, tradizionali, fanno però un sacco di morti. La questura che dice? La questura non dice niente, però quanti sono stati i morti dalla prima guerra mondiale? Ma adesso così a bruciapelo 60 milioni mi sa, 50 milioni. La spagnola l'ha fatta dai 20 e 30, cioè c'è sta, attenzione quando dici spagnola perché c'è gente che sviene così. La spagnola, no, ma poi la spagnola ha fatto anche cose belle, ha fatto anche cose belle, sì, appunto, sì. Cioè, spagnola uno... infatti ha fatto 20-30 milioni di morti, cioè. E continua a farlo, può essere. A farlo. Se, dovendo scegliere, vorremmo lì per la spagnola, ecco, sì, sicuramente, insomma, non per il COVID, che bello, che non bello, per il COVID. Le spagnole, sì, sì. Che bello, va bene, ragazzi. Infatti, stiamo parlando tutti quanti del ciclone di Pieraccioni, giusto? Esatto, bravo, esatto. The rhythm is magic. Poi ricordiamo che Pieraccioni era l'unico regista che faceva i film solo per potersi baciare le belle fighe. Non è l'unico, ne abbiamo anche esempi qui in zona, insomma. Ah sì, hai ragione. Beh, ma seguiva la Lorma, io dico sempre il povero Pieraccioni, il quale quando ebbe successo con i laureati fece la sciocchezza di firmare un contratto per 10 film con Cecchi Gori e li dovette fare un tanto al chilo. Che sciocchezza, dipende quanto hanno pagato. Ma secondo me neanche tantissimissimo, nel senso che poi il botto l'ha fatto col ciclone subito dopo, però dopo fanne uno all'anno, cioè infatti alla fine li faceva tanto per farli, erano uno più brutto dell'altro, uguali per altro. Allora, a quel punto dice, qual era, poteva essere l'unica soddisfazione? Mettiamo un'attrice spagnola che magari me la dà, e andava avanti così. Vabbè, però quella in particolare è la proprietà della famiglia Berlusconi, quindi. Ma Natalia Estrada, vabbè, ma in realtà non era neanche protagonista in quel film, era Lorena Fortesa la protagonista. Ah sì, oddio, sì. Infatti. Comunque, quello che proprio secondo me ha vinto al Totocalcio è Seth MacFarlane, quello dei Griffin e di The Orville. Perché se avete visto The Orville, non solo ha realizzato il sogno di diventare capitano di un'astronave in stile Star Trek, però tutte le comprimarie femminili con cui lui ha avuto delle interazioni sono tutte bellissime. A partire da Adrian Palicki, ma poi c'è la puntata in cui c'è. Capito? Adrian Palicki gli attacca le caccole in testa, però. Cioè. No, è altissima quella. Appunto. Intanto salutiamo Mauro, Mauro Mongerolfo, che dice: wow, accendo e parlate in spagnolo, e grazie. Dobbiamo farlo più spesso, vedete? Porta ascoltatori questa cosa. C'è la puntata in cui va a letto con Charlize Theron, mica è stato scemo. Se ne è calcolate queste cose. Vabbè, poi lui non si può guardare, ragazzi, cioè nel senso, c'è proprio la faccia strana. Dai, c'è di peggio. Oddio, madonna. Vai, scanna. Ragazzi, ma non vi potevate vedere Nightmare Before Christmas? No, Nightmare basta, infatti. Basta, guarda, tanto non si sente, dai, non si sente. Fai questi effetti speciali che non si sente. No, ma si sente. Solo che rotter cazzo. Cioè, devi romper cazzo. Cioè, il fantasma perché muove le catene? È giusto, fa paura, che romper cazzo, è il fantasma, vabbè, che di notte muove le catene, che struscia le cose. Non è che poi andate, oh, ma è rotter cazzo. No, il lavoro del fantasma è romper cazzo. Di che stiamo a parlare? Scusi, ma qual è la sua professione? Romper cazzo. Sono fantasma che rompo il cazzo. Beh, difatti, se ci pensate, Poltergeist, quello più di Spielberg, era un fantasma che rompeva il cazzo. Cioè, ha creato un genere, voglio dire. Esatto. Che... In tutto questo. Cambiamo genere, sempre però sulla paura. No? Vai. E parliamo di film e paura. Ah, parliamo di film. Però al contrario. Beh, però non abbiamo parlato dei film. No, perché abbiamo parlato dei film che ci hanno fatto paura, però Di film che avrebbero dovuto farci paura e che in realtà ci hanno fatto ridere. Ok, però abbiamo parlato pure di quello abbiamo già parlato. Però secondo me ci sono film stati che dovevano far ridere, ma ci hanno fatto paura. No, secondo me dei film, al di là di In the Market, che vabbè l'abbiamo già parlato. Però secondo me ci sono stati dei film che dovevano farci paura. E non ci sono stati. Tipo? Beh, io ce n'ho almeno un paio. Dai. Uno era Hostel. Io non l'ho visto Hostel. Allora, io ho visto solo la risposta italiana. No, invece te lo devi dire perché praticamente mezzo film è Natale a Praga. No? Ah, okay. Vabbè, come, e quindi come la risposta italiana? Sì, con le solite battute bece. Stai a vedere il film di Boldi e De Sica, però con attori americani. Ho capito. Dopo diventa. E lì. Ma non fa ride, però. Cioè, tu lo guardi, mazza che manco merda. Quello con Boldi e De Sica fa ride, giù. Cioè. Comunque, mazza che merda. Poi a un certo punto comincia a diventare un film di torture. E lì c'è stato due o tre scene che proprio. Io e parte del cinema siamo sbottati a ride, perché c'è una scena in cui praticamente questo sta a torturare il tizio, gli taglia le dita della mano e prende la motosega per far tagliare dei pezzi, mette il piede su dita, scivola, cade per terra, gli casca la motosega sulla gamba e se la taglia. E gente che lì mi si è messa a ridere, cioè, ma che cazzo, che altro mi vuoi trasmettere? Cioè, certo. Una cosa del genere. Poi a un certo punto c'è una scena in cui scappano, c'è l'inseguimento delle macchine. Non me la ricordo neanche tanto bene, però a un certo punto c'è sta tizia, che era una delle cattive, che si ritrova davanti a 3-4 macchine che sfrecciano. Riesce a salvarsi, a un certo punto si tira su, c'è sta scena in cui lei, ah, meno male, mi sono salvato, arriva la macchina, pam, la prende in pieno. E la gente ride, giustamente, è partito uno scaraccio. E gente che rideva, cioè, ma che, cioè, scene proprio fatte a cazzo dei cari, cioè, ma questo, cioè, è un film che mi dovrebbe dare un po' di disagio, non mi deve far ride. E soprattutto non mi dovrebbe far ride quando mi dovrebbe far ride, non quando, cioè, quando mi dovrebbe far paura. Cioè, certo. Un film secondo me è una merda. Ma io non l'ho visto, però guarda, sono sicuro che anch'io non ho visto dei film che mi dovevano fare paura, invece mi hanno fatto ride. Adesso però non mi vengono su due piedi. Sbans. Allora sì, c'è stato. Io vabbè, sì, film horror li guardo, non mi spaventano. Sì, neanche io sono un appassionatissimo. C'era la serie, quella bellissima, cioè, con il ragazzino, che però abbiamo già detto. Ah, vabbè, sì. Però possiamo riraccontarlo, che è sempre bello. Com'era? Era Outcast. Outcast, sì. C'è il bambino che viene preso a pugni da pippa. Si taglia di volta. Poi è dello stesso team creativo di The Walking Dead. Sì, sì, esatto. Ma infatti era per quello che fece molto clamore, perché praticamente era degli autori di The Walking Dead. Praticamente fecero la prima, se voi ve lo ricordate, fecero in diretta la prima su Facebook. E io e Gualdi se la siamo guardata, ma veramente a piagne dalle risate. Cioè, a piagne dalle risate, perché la scena dell'esorcismo di sto ragazzino, che poi alla fine finisce per accarci pugni, è una cosa indecente, insomma. Poi da lì devo dire che, visto il pilot, che è quello che teoricamente dovrebbe attirare, abbiamo lasciato stare, infatti. E lì infatti poi non l'abbiamo più vista. No, ma c'era un altro film, aspetta, era quello lì spagnolo. Però stava di lui. Tipo un rec, sì, per poi mi dimentico. No, quello coso, il panico. A parte il panico, no, c'era un film della serie Rec, forse, uno dei tanti film. Ah, quello di zombie, tu ricordi quello di zombie che quando si sentiva... Vecchia, c'è stava una vecchia che... Ah, bravo, è sempre Rec, è bravo, è Rec, sì, è uno dei Rec. Che stiamo ride perché sta vecchia... Che sta vecchia che paghi parte dei capossi, e poi la piana schiena. È vero. Sì, vabbè. Oddio, quello devo dire. Un po' di meno, però. Un po' di meno faceva ride, però sì, quella scena mi ha fatto ammazzare le risate. Oppure c'era quell'altro, sempre fatto in prima persona, sempre in soggettiva, che era. L'abbiamo visto, non mi pare, su Sky, forse. Che praticamente era però sui zombie. E tu capivi che stava arrivando zombie perché se ne sentivano i rumori delle mosche. Te lo ricordi? Oddio, sì, questo flash. Vaghissimo, perché veramente il film non me lo ricordo, ma quello era. Cipissimo. Cioè, per doverti sto film dovevi avere il 7.1 a casa. No, ma tu praticamente a un certo punto capivi che era un zombie perché sentiva tutte le mosche intorno. Cioè, una cosa terribile, raga. Insomma, Sbano, scusa, abbiamo scippato la parola. Un film horror che vide al cinema con tutta una serie di aspettative, perché il regista era Sam Raimi. Cazzo, Sam Raimi, horror, deve essere figo per forza. Il film era Drag Me to Hell. La storia di questa ragazza che praticamente... Ma quella è fatta apposta. Ma allora, o non lo sapevo quando sono andato al cinema, o insomma, vabbè, non mi aspettavo quel tipo di comicità involontaria. Però quando c'è una vecchia succede sempre così. E c'era sta scena. Allora, il film inizia anche col presupposto. Sta vecchia di origine, non so se russa o balcanica, qui Zingara, comunque, esatto, è vero. Gli nega, lei che lavora in banca, gli nega un prestito, comunque un piano di rientro, qualcosa del genere. Allora lei gli manda iattura. Esatto, lei gli manda l'anatema. E cominciano a succedere tutta una serie di cose. Il problema è che a un certo punto lei e la vecchia si incontrano e si scontrano. E la vecchia gli salta al collo senza dentiere. sera in una scena che veramente era tragicamente ironica, cioè, ma ci ha fatto morire dalle risate tutta la sala. No, no, ma fa ridere. Non mi è fatta apposta. Cioè, la cosa particolare di quel film è che se non hai visto un cazzo di Raimi, oppure non sai che è di Raimi, oppure non sai che gli altri film che hai visto di Raimi, dici, boh, ma che filmaccio, perché magari c'è la di aspettativa. Se conosci Raimi, dice, no, vabbè, questo film ha spaccato tutto, perché rientra perfettamente nei suoi canoni. Sì, forse, però boh, certe scene finivano ad essere veramente grottesche. Sì, ma era palesemente, cioè c'ha dei richiami, perché c'è. Il contesto è diverso, però c'ha dei richiami pesanti alla sua filmografia, cioè di Army of the Sì, Dead, a un certo punto ti aspetti solo che esca Bruce Campbell con la sega in mano, con la sigaretta in mano. Sicuramente c'è stato Bruce Campbell, perché c'è un feticcio. Bruschetta. Non l'avete visto, ma ci deve stare. Sì, probabilmente. Comunque, sì. Vabbè, pure Venne il giorno, c'è la scena della vecchia che è meravigliosa, la scena della vecchia. Comunque, quando c'è una vecchia... Sì, è vecchia... Se poi c'è una vecchia, è Paolo Villaggio e la fine. No, però le vecchie è bello, però come diceva lui, quella sul Rec è bellissima, perché praticamente dentro sto palazzo, sì, esatto, prima dicono che è una cosa batteriologica, ma invece c'è il demonio che si diffonde tramite un virus, una cosa un po' strana. Rec, devo dire la verità, però il fatto di essere stato uno dei primi ad essere fatto tutto in soggettiva, quindi c'era questa cosa un po' crossmediale, no, particolare, devo dire che c'aveva il suo perché, no, nel senso, alla fine ti metteva anche più, no, ansia, però più claustrofobia, perché alla fine era tutto visto in soggettiva. E c'era sta scena di sta vecchia che a un certo punto è un po', signora, sta vecchia che rimane ferma, e tu lo sai che sta per succedere qualcosa. Vediamo quelle scene che si trascinano un pochino, perché tu sai che mo succede qualcosa, e poi sta vecchia impazzisce e comincia ancora verso il tipo, tipo papà, dai, un cazzotto in faccia, vabbè, fa troppo ridere, dai, sì, in effetti, vabbè, comunque, questo. Invece tu, Puccio, qualche film che pensavi che te ne faceva paura, invece no, ne hai riso. I due Unfriended Dark Web, cioè vi giuro, allora sono due film che penso essere da un tocco sperimentale all'horror e al thriller. In pratica sono basati tutti e due su, diciamo, gli incontri in chat finiti male, non so come altro definirli. La particolarità di sti film è che sono girati come se fossero una serie di videochiamate, di chat, durante le quali succedono cose, generalmente muore gente. Il problema è che, trattandosi per l'appunto di videoconferenze e roba simile, tutte queste scene avvengono mentre il viso degli attori è preso in primissimo piano, tra l'altro con delle luci smarmellate in stile Boris, quindi tutto diventa più che ridicolo, perché veramente vedi gente che fa delle espressioni assurde con mani fuori campo che entrano per strangolarli. Sono veramente terribili. Ho visto il primo, vi giuro, ho iniziato a ridere. Io non sono uno che guarda gli horror, perché generalmente sono una persona impressionabile, però non l'avevamo capito, Puccio. Sì, assolutamente, di cui sono abbastanza, lo nascondi bene. Sì, di cui mi fido parecchio. No, guarda, il primo è carino. Io ho finito ridendo. Infatti ho detto, se era un film comico non l'ho capito, però insomma, sono veramente terribili, fanno tanto impressione. Beh, sì, capita comunque i film che alla fine comunque capita tantissimo anche a quelli molto pulp, no? Quelli più che pulp, diciamo splatter, no? Perché il film splatter comunque è esagerato per definizione, quindi a volte ti viene, cioè te fa ride, perché so, sì, sai chi l'ha capita, tipo smarmellate di sangue a destra a manca, cioè a volte sono talmente ridicole, no, che te fanno ridere, insomma. Ma sai chi l'ha capita veramente molto bene quella lezione? Garth Ennis, che è l'autore che ha scritto i fumetti e parte delle sceneggiature di Preacher, l'ha scritto tutto lui, è anche l'autore di The Boys. Quello, in ogni cazzo di cosa che scrive, inserisce della roba così fuori di testa, così grottesca, però fatta apposta, perché secondo lui quel tipo di scene serve a sdrammatizzare il resto della roba che scive, cioè ti distrae da quello che è il contesto. Su The Boys in particolare poi ci stanno delle scene. La linea comica si usa per spezzare la tensione. Sì, sì, sì. Cioè, addirittura, sì, ma lui non l'ha, addirittura una delle prime scene nella prima puntata, fine, la storia della ragazza di lui, no? Con l'uomo più veloce lì. Insomma, qua c'è lì. Esatto, qua c'è lì, è terribile. Anche inverosimile, tutto sommato. Cioè, nel senso, no, perché se per questo, se volete, ha fatto di peggio in altre. Perché quel personaggio l'ha riciclato più volte. Lui c'è un personaggio icona che si chiama Faccia di Culo, che è un povero ragazzo che ha tentato di spararsi in bocca, è rimasto leggermente sfregiato, e lui lo usa, esatto, e lui lo usa nelle varie storie che ha scritto, come lo ha riciclato, l'ha tirato fuori in Preacher, però poi l'ha inserito anche in altre, e quello gli serve perché secondo lui più che il comico, il grottesco nel caso delle sue storie aiuta il lettore a rilassarsi. Vabbè. Ok, Francesco, invece tu un film che doveva far paura ti ha fatto ridere? Ma tendenzialmente quando si vede in compagnia, pure il film più terrificante è fatto bene. Sì, beh, certo, ridere, perché lì subentra l'altro meccanismo. Sì, purtroppo, no? Sì, purtroppo, infatti, perciò io cerco di, se proprio mi devo sparare un film del genere, preferisco a vedermelo da solo, sinceramente. Sì, sei un pochino isolazionista da questo punto di vista. Però mi ricordo anche a livello di film brutti, cioè, però mi ricordo il contesto, mi ricordo cosa ha fatto ridere, però il remake di Non aprire te quella porta, che fece una quindicina d'anni fa, quella con Jessica Biel, che alla fine lo guardavano solo che per Jessica Biel. Ma voglio, che film di me, ma sì, ma alla fine pure il primo, cioè con quello originale, è grottesco, fa ridere tra virgolette, ma questo faceva ridere per modo involontario, non mi ricordo di preciso quale scena di preciso, però c'era uno che ha detto fermare, ha detto mettere stop e a riprendere. C'ho solo questa sensazione che mi ha fatto ridere, però. Beh, ci sono anche un sacco tanto, di. Scusate. Prego. Mi chiedono dalla regia, mia moglie, a cui ho girato la foto della torta, chi l'ha tagliata così? Michela. Ma no, non è tagliare, quello è mutilare proprio, stuprare. Penso che mia moglie stanotte non ci dorme, che c'ha l'OCD, cioè questo. In modalità non euclidea proprio. Lo so, ma cioè, lei è un po' così, è un po' a casaccio. Io vi vorrei mandare una foto che sto cercando e che non trovo, di un taglio ancora peggiore, che era una pizza di quelle tonde al tegame fatta da mia madre con due spicchi tagliati e un quadrato tagliato al centro. No, quello è anche peggio. Vi giuro, quello è mio padre, lo fa tutte le volte. Mia madre tutte le volte c'ha gli attacchi proprio di. Tiro, gli arriva il sangue al cervello, è terribile. Beh, la stavo cercando perché così rivalutiamo Michela, che tutto sommato ha solo sbagliato i raggi. Sì. Comunque, come bonus track. Beh, diciamo che comunque sono pure un sacco di film che sono stati dimenticati. Come bonus track, che non so se hai visto Bizzi, ma se non l'hai visto, poi ce lo dobbiamo vedere una sera. Ok. Jason X. Oh, bellissimo, Jason X, che io vedi. Cioè, raga. Ma stavo con le lacrime all'occhio, cioè due o tre scene stavo che lacrime all'occhio proprio. Comunque pure Event Horizon, cioè dato che l'abbiamo. Event Horizon non fa né paura né fa ride, cioè è un film che comunque. Vabbè, è un film inutile. Ma non è inutile. È inutile. Ma soltanto per la dimensione di puro male, cioè. Dai, ma è un film che non vola proprio di incà, cioè. Un film brutto di serie B proprio. Sicuramente, come tanti cult sono film di serie B. Vabbè, però. Comunque sì, Puccio è quello nel 2000, ambientato nel 2004. L'ho cercato. Che tra l'altro rende canonico il fatto che si era scontrato con Freddy Krueger. Comunque anche sì, anche Freddy vs Jason fa la sua porca figura. Però lì te l'aspetti, perché comunque Freddy Mercury è il personaggio che deve far ridere. Freddy Krueger è uno che deve far ridere. Ma appunto c'è un mezzo zombie di Freddy Mercury. Tanto è uguale come lo cantava William Shatner, che sicuramente lo doppierebbe. Si sentirebbe anche un trittico: Freddy Krueger, Freddy Mercury, William Shatner. Cioè, come vedi sta sceneggiatura? Tutti e tre a giocare a carte insieme. Tre Freddy. Potremmo fare direttamente un Freddy Shatner, che è una creatura unica. Però Jason X, ragazzi, è ridicolo. Vabbè, sapete che vi dico. No, vai, sapete che vi dico. Sì, sapete che vi dico una cosa. Potrebbe sembrare una scureggia, non è vero. Che paura mi fa, ha detto l'uomo Luco Frank, che gran bavosa. Il baciocchi ha una bocca bavosa. Mamma che schifo. Ma sono un amico. Carlito. La meglio un po'. Draculino e Frankenstein. Occhio che Frankenstein si sente a pezzi. C'ha le pile scariche. C'ha le pile scariche. Luna piena lassù. E l'uomo ruba urla. Questa ci dà un po' il gancio, magari, per andare a vedere quei film dell'horror che ti hanno fatto ridere perché intenzionalmente erano parodie o comunque film che volevano far ridere, insomma, giustamente. Parodie di film horror. Parodie di film horror, ma no, anche film horror pensati come... Tipo l'esorciccio. Sì, tipo... Ma, no. Sì, quello fa già riferimento. Army of Darkness. Però ecco, per esempio, Zeta Nation, no? Ad esempio, la serie televisiva... Beh, L'Armata delle Tenebre, per rimanere in tema di... La Morte dei Morti Dementi. Sì. La Notte dei Morti Dementi, sì. No, no, Shaun of the Dead. Si chiama Shaun of the Dead. Grazie, prego. Grazie, grazie. Vabbè, alla fine, insomma, era per capire... E poi io quando penso a sto filone di discorso mi viene sempre in mente quel film giapponese che ho visto con Marco, che non sappiamo, dove c'erano zombie, gente che cagava e tentacoli che uscivano dal culo, insomma, quindi veramente i giapponesi potrebbe essere un Resident Evil qualunque, però raccontato così. Sì, lo so, però era fatto con mezzi più approssimativi e veramente comunque i giapponesi hanno grossi problemi con... Che i giapponesi hanno grossi problemi, punto. La frase che poi pare sia lì proprio una tipologia di... Attenzione, attenzione. Niente, niente, non è successo. La tipologia d'attenzione. La tipologia d'attenzione, varie attenzioni. Tra l'altro, se in chat invece avete il vostro racconto, magari del vostro film che vi ha fatto ridere o che comunque non doveva farvi ridere, ma vi ha fatto ridere, magari citatelo. Insomma, vale anche il filmino del matrimonio. Mandate in audio che poi Pizzi lo manda in diretta. Lo mando, così. Lo mando. Bravo, bravo, esatto. Bravo, bravo. Bella idea, bella idea. Io ricorderò sempre bene gli Scary Movie 3. Per dire, cioè quello. E qui gli Scary Movie non li ho mai visti. Cioè, ho visto solo degli spezzoni e non mi facevano ridere. No, ma perché tu probabilmente hai visto i primi due? Io il 3, che è dei fratelli Zucker, l'ero più pazzo del mondo. Io ho visto la scena dei due che stavano trombando. No, quello dovrebbe essere. E lui talmente che fa questa spruzzata. No. Allora, quello è uno dei primi due, infatti, fanno cagare, non l'ho visto neanche io. Il terzo è dei fratelli Zucker, che hanno fatto la parodia di una serie di film. Ma quello è da morire dalle risate, cioè veramente fantastico. E poi c'è Leslie Nielsen, quindi già questo ti fa capire il tenore. È già indicativo. Già, comunque, cioè, qualitativamente siamo a qualche spanna sopra i primi due, insomma, quindi. Ma anche il 4, sì. Anche il 4 che prende per il culo design. Però il 3. No, il 3 che prende per il culo design. Anche il 4, design, era invece 3, che prendeva 3, per il culo The Ring. Tutta quella cosa. The Grudge pure, sì, che c'è. Però il 3 è fantastico, cioè io lì mi sono ammazzato. Proverò. C'era la versione col finale alternativo che cambiava completamente il film, cioè tipo dura un quarto d'ora, 20 minuti, che cambia completamente il senso del film, e lì, cioè, lì stavo con le lacrime quando l'ho visto, cioè, perché è qualcosa di assurdo. C'era addirittura Hulk a un certo punto, cioè la versione dei fratelli Zucker di Hulk, quindi vabbè, lasciamo stare. Beh, allora proverò a recuperarli. Se dal 3 in poi devo... Il 3 e il 4. Il 3 e il 4, ok. No, e gli altri io non li ho cagati perché merda. Però sai che quando una cosa alla fine, comunque in qualche maniera, dentro di te si fa una nomina, poi alla fine non trovi interesse verso... Però per esempio, ecco, i film giapponesi o i film giapponesi occidentalizzati tipo The Ring, The Call, questi qua per esempio vi piacevano, vi sono piaciuti? Beh, The Ring non era male, dai. The Ring sì, dai. Allora io l'ho visto con due amici, The Ring, e non l'ho visto in un cinema qualunque, l'ho visto all'Arcadia. Arca? Via. E c'era al Volturno, e c'era un amico. L'invasione degli ultracorpi, la cosa è sempre quello. Sto registrando da software. Comunque, la cosa di Carpenter è già un remake. Sì, sì. Sì? Sì, sì, della cosa dell'altro mondo di... sì, che in realtà era di cosa là? Di un altro mondo, Sì, decisamente. Era sia la cosa che dell'altro mondo, infatti. Se no non si chiamava la cosa dell'altro mondo, giusto? Film del 1951 di Christian Libby. No, no, comunque fantascienza e horror si sono mischiati tantissime volte anche prima, ma già l'invasione degli ultracorpi, tante cose. Simone, anche se poi horror, cioè nel senso, vabbè, diciamo per come lo conosciamo oggi noi in termini moderni è un po' diverso da come magari si intendeva negli anni 50, 60, insomma. Vabbè, però, anche perché insomma i mezzi erano all'epoca erano quelli che erano. Sì, sì, ma anche concettualmente, cioè oggi però ti ricordi La mosca umana, per esempio? La mosca, per esempio, non la mosca, no, la mosca di Cronenberg, la mosca umana, che è un remake, infatti. Le strane esperimenti del dottor K, esatto. No, che poi alla fine è, esatto, con Vincent Price, però, ragazzi, quando stavo a Urbino, però mi ricordo c'era un professore di, stava in, non mi ricordo che facoltà, però parlava, faceva lezioni sul cinema, credo fosse a sociologia, che a un certo punto fece, andai a seguirlo perché era interessante, fece tutta una lezione sugli horror, che secondo lui erano un genere di film politico, facendo gli esempi, insomma, molto, e alla fine disse: sapete quando una serie di film horror è destinata a fare il salto dello squalo, uso l'espressione di Happy Days, quando la portano, non è l'espressione di Happy Days, è diventato proprio un termine, è diventata dopo, sì, dopo ha ispirato Sharknado, tra l'altro fatto, quando vedete che una serie horror viene portata nello spazio, quello è il momento in cui quella serie è morta, secondo me. E fece alcuni esempi, tipo all'epoca c'era la serie delle Precauno, non so se vi è capitato di vederla. Sì. Ok, non l'ho mai visto, fatto due anni fa è uscito Leprechaun in Space, vuol dire che gli sceneggiatori hanno finito le idee, però ci avevano per contratto che dovevano fare, esatto, dovevano fare un altro film, e allora l'hanno spostato nello spazio. Quindi, sì, cioè è assolutamente corretto che horror e fantascienza sono parecchio legati. Beh, è pure vero che se le saghe horror normali le portano di peso nella fantascienza, oddio, so, anche tre videogiochi veramente bellissimi da questo punto di vista, uno è Soma, l'altro è Kona, e un altro, vabbè, volendo, secondo Soreda, me l'unico videogioco su Alien che veramente vale la pena giocare, che è Colon Marines, no, che Alien Isolation. Vabbè, ragazzi, ma lo stesso Doom dovrebbe essere, sì, però Doom è uno sparatutto, però è uno sparatutto, cioè, non è che Alien Isolation fosse un altro genere, no, Alien Isolation è tutto da nascondiglio, cioè, no, tu, vabbè, è Metal Stealth, però sì, ma però tu sei disarmato completamente, vabbè, quindi, cioè, nel senso, anche perché invece Colon Marine si fa Colon Marine, quello sì, era uno sparatutto, infatti era una merda, insomma. Però vabbè, comunque è una merda, ma soprattutto perché hanno sbagliato, cioè, a programmare l'IA, poi hanno messo un carattere sbagliato, sì, se ne sono accorti dopo diversi anni, mamma mia, cioè. Era socievole, secondo. Vabbè, dai, comunque alla fine, ecco, diciamo che nell'ambito dell'horror noi non, penso che tra tutti noi nessuno sia un particolarmente appassionato come magari è capitato, però insomma la cosa che mi fa venire sempre in mente con i film horror è il fatto che comunque mi ricorda quando avevi 13-14 anni, con gli amici di scuola ci si riuniva di solito a casa di qualcuno, tutti quanti insieme in una stanza buia, che era una sorta di sfida, ma era anche l'occasione per abbraccicarsi con i pischè. Ah, madonna, le pippe davanti al film. Vabbè, a chi piace, non è che... E diventa di per sé un horror, praticamente, esatto. Per cui è meta, esatto, è meta cinema, è meta merda. È anche meta sega, però meta sega, anche questa cosa è terrificante. Tu stai a vedere Freddy Krueger che sguarda e a un certo punto rimanda indietro, che mi è piaciuto. Immaginati la scena, che tu ti stai cagando sotto perché a un certo punto dal fondo della stanza cominci a sentire aspetta, che... Madonna, che c'hai? La carta vetrata. Aspetta, no. ti faccio l'effetto sonoro. No, questa è un'altra cosa. Questa è un'altra adesso cosa. Io chiudo la trasmissione per sempre. Però, però sta cosa della... Io in realtà ho avuto una pulsione erotica in un film dell'orrore, ne abbiamo già parlato l'altra volta. è stato proprio co-entity, perché insomma alla fine c'è qua la scena dell'entità che stupra lei, che alla fine comunque era fatta apposta per, insomma, per suscitare, insomma, la, perché in realtà tu per lì non stai neanche a pensare che è l'entità che abusa di lei, vedi semplicemente questa cosa, questo effetto speciale della Sisa che viene palpata da questa entità trasparente. E tra l'altro mi sono domandato come cazzo hanno fatto per anni, come cazzo hanno fatto a fare quella scena in un tempo in cui... chiederemo di agli Slim Dogs. Quanto è sto film, non l'ho mai sentito. Entity che filmone, oh, cioè... A proposito di pulsione legata a un contesto horror, mi avete fatto venire in mente una situazione vita reale di tanti anni fa. All'Uneur aprirono questo, una delle prime attrazioni con attori veri, horror con attori veri, si chiamava Posage do Terror, penso che fosse importata 82, dallo comunque, Spagna, sì. Comunque andammo con gli amici a vedere, a fare questa giostra, cioè sostanzialmente era una specie di casa dell'orrore, però più evoluta. Ma all'Euro questo? All'Uneur, ma ti parlo dei 25 anni fa. Vabbè, sì. Più insomma, con attori veri, che tu devi fare tutto questo percorso guidato, era in gruppo, c'era una sorta di guida che ti faceva fare questo percorso e poi le scene erano tutte animate da attori. A un certo punto c'era la classica scena della ragazza posseduta che si sbatteva indemoniata sul letto tipo l'esorcista, ma la cosa è che avrebbe dovuto far paura, ma al di là del fatto che sta ragazza si vedeva comunque che era molto carina, a prescindere dal fatto che era truccata come uno diciamo come una posseduta eccetera, c'aveva un profumo, ma un profumo che tu a un certo punto dicevo sarà pure horror, però, e quindi ricordiamo le pippe pensieri, okay. No, ti ho detto perché tu avevi detto una reazione di un certo tipo a una scena horror, anche là in quel momento dico, ma aspetta un momento, meglio che esco, perché vabbè. Comunque Entity è un film che è uscito tra tra l'82 e l'83. Perché cioè in mezzo. A Capodanno, perché praticamente su c'è scritto Entity, la scheda è 1982, poi leggi sotto sulla stessa scheda anno 1981, uscita 1983 negli Stati Uniti. Cioè è un po' non strano. Erano sicuri manco loro. Esatto. Comunque Pizzi. Ma la cosa più bella andrebbe un po' ricercato, perché in effetti comunque è un film la cosa più bella però è la trama che è stata riassunta in questa scheda di My Movies. Questo è My Movies, non sono io. Esperto di fenomeni paranormali e psichiatra, cerca di curare una madre californiana che ha subito uno stupro soprannaturale. No, non c'è allora, innanzitutto è lei la protagonista. La innanzitutto è lei la protagonista del film, non è lui, cioè non è il tizio. La Madonna, gli fai credere allo Spirito Santo. Comunque, detto questo, dice Simone Pizzi, questo è per te, ti risblocco un ricordo, Fantasm, sì. Ma diciamo che l'inizio e metà degli anni Ottanta era l'era d'oro di quei film un po' da cassetta horror. Anche Sentiti è un film che va visto, perché comunque nell'epoca contestualizzato era un film. Cazzo, visto che parliamo da un di romanzo, questo, comunque, c'è tutto il filone di Dario Argento di quegli anni, che non è che possiamo tralasciarlo così come nulla fosse. Sì, però già lì rientra in quella che poi è diventata una vera e propria scuola di horror, no? Cioè la scuola cinematografica dell'horror all'italiana, quello molto anche un po' splatter. Invece Entity era proprio più sottile, che era proprio psicologico, cioè comunque era il rapporto de sta tizia che dentro casa c'era questa entità che la perseguitava fondamentalmente, no? E quindi la molestava proprio. No, la molestava, ma la picchiava anche, la cosa, insomma, vabbè. È tratto da una storia quella Madonna, che è tratto da una storia vera praticamente, cioè questo è il caso della signora Doris Beaker. Aspetta, che c'è un momento di una scena topica di Hellraiser, credo. Ok, ma ce la sta a vedere Laura? Pizzianti. Ma dite che da fastidio, che spengo. No, però cioè, nel senso, era contestuale. Sì, tutto sommato ci stava anche bene. La domanda è: ma lo sta vedendo Laura? Perché questo lo volevo sapere. Sì, è altra gente, sì. Ah, ok. È altra gente, così come tipo. Salve, siamo l'altra gente. Salve, chiamo l'altra gente. Va bene. Comunque, no, ragazzi, esiste un termine inglese per identificare. È venuto fuori quando è uscito l'ultimo Resident Evil e ci hanno infilato Lady Dimitrescu, che unisce i termini eccitato e spaventato. Pare che sia andato in voga Scarused. che Scared Unused, bellissimo, da oggi lo uso. Ma comunque l'eccitazione e la paura a volte vanno di pari passo, si possono avere comunque una connessione, cioè non... è come quando Rutti e Scoreggi insieme. Esatto. Come esatto? Esatto, esatto, sono d'accordo. Rutti e Scoreggi insieme, infatti era uno dei racconti che volevo tenermi per Time by Night per stasera. Esatto. No, per questa sera no, perché non è abbastanza horror la cosa, però io lo consiglio Entity, perché è vero che dovete sempre contestualizzare, ma insomma era un film abbastanza, sì, e mi ricordo che alla fine del film c'era scritto che era tratto da una storia vera, tra virgolette, perché per i protagonisti di questa storia vera, per loro è vera, cioè poi stavo leggendo che praticamente è stata archiviata senza, non sono mai riusciti ad arrivare alla conclusione certa questa cosa. Sì. Non sono mai riusciti a capire che cazzo succedeva, sarà matta, perché poi c'erano delle prove effettive di abusi che subiva questa, non riuscivano a capire come, evidentemente non avevano capito, cioè non avevano visto che erano state inflitte, magari, chi può dire, magari Francesco lui l'ha studiata, sì l'ha studiato, sicuro, Entity, proprio lui Entity, proprio lui Entity. Anzi, lui è l'entità, è Satana. Vabbè, dai. Ma non possiamo spoilerare. Possiamo spoilerare, ragazzi. È vero, è spoilerato. Sono stronzo. Piano. Ho spoilerato perché voi hai detto che era spoilerato. Se no, non avrebbe. È vero, nessuno avrebbe saputo. È vero, hai ragione. Vabbè, e questo è poi comunque. Come dice Peppe Rizzard in chat, citando Lobby, dice Death by Snoo Snoo. Quello sì, il terrore, ragazzi. Il terrore è la gioia insieme. Esatto. Vabbè. Se proprio si deve morire, come dice Fry, no? Non ho mai pensato che sarei morto così, ma nel mio cuore un po' ci speravo. Esatto. Futurama, ragazzi, che è l'apice massimo del genio di Matt Groening, che poi si è molto perso ormai. Anche Simpson ormai non si possono più guardare. Vabbè, ma dopo quasi 30 anni, ma dopo che cazzo c'è da raccontare? No, più di 30. Siamo, mi pare, alla 34esima. Io andavo a scuola. Sì, vabbè, cioè nel senso, ma che me devi raccontare? Cioè, capisco. Vabbè, finché fai satira di politica. Ma sì, ma cioè, quando cambia è che anche... si sono stancati. Allora, tu devi considerare che io, autore, scrivo una cosa e la penso una cosa a una certa determinata età, poi divento cinquantenne e non c'ho più la stessa verve, lo stesso modo di raccontare, la stessa percezione, ma ancora maggior ragione. Ma c'è Ghostwriter come ma a maggior ragione, cioè vuol dire che proprio perde oramai completamente di senso la cosa, no? A un certo punto accanna. Io capisco che la gente se lo guarda e quindi lo fanno. Tra l'altro io mi ricordo la primissima stagione di Simpson che faceva proprio schifo, cioè era disegnata malissimo, merda, erano gialli verdognoli, spigolosi. Poi dalla seconda in poi hanno cambiato completamente il tratto, il design, è rimasto quello, diciamo, inalterato nei decenni. Ma se voi vi ricordate, i primissimi erano brutti forti, sì, al punto di starti antipatici, sì. Molto, è vero. Ma secondo me erano anche impostati male, comunque, come tipo di cosa. Probabilmente poi c'è anche magari un problema pure di doppiaggio, chi lo sa, insomma. Però devo dire che alla fine molte stagioni dei Simpson ne sono piaciute, ma a un certo punto ne sono proprio rotti i coglioni. Vabbè, ma... sì, ti ripeto, non sapeva più cosa. Oltretutto. Alcuni riferimenti da noi sono anche poco traducibili, perché questo in realtà in Futurama è ancora molto più evidente, è una satira di eventi che di politica interna e di attualità interna che da noi non ci arrivano neanche, quindi fatichiamo anche a capirle certe battute. Sì, no, tutto il fatto delle teste tagliate, il 90% di quei personaggi non so, proprio conosciutissimi, cioè no, tolti, esatto, politici internazionali. Esatto. Finché Nixon qualcosa riesce a capirla, ma molte battute da noi non arrivano proprio. C'era pure Leonard Nimoy, cioè dalla prima puntata. Sì. Leonard Nimoy sta anche nei Simpson, solo in Disincanto mi sa che non l'ha. Forse. Chi lo sa. Poi Disincanto, devo dire la verità, non mi ha fatto impazzire, ma le prime due stagioni me lo so comunque guardato, carino, però non... Vabbè, ha provato a fare la narrazione unica, no? Una serie tutta antologica su un evento unico. Sì, più o meno, sì. E ha funzionato e non ha funzionato, insomma. A un certo punto, secondo me, si è anche un po' persa la storia, è andata in tutta un'altra direzione. Poi non so se l'hai vista tutta quella che dovrebbe uscire, l'ultima parte, se non ricordo male. Dovrebbe essere già uscita, non so. Non mi ricordo se c'è un finale vero e proprio. Comunque, a un certo punto la storia prende tutta una serie di eventi che tu dici, boh, vabbè. Comunque, vabbè, insomma. direi che, per esempio, non abbiamo citato gli speciali dei Simpson, La paura fa 90, che è lo speciale che che ogni Halloween viene. Quelle sono carucci, sì, quelle sono carucci. Alcune delle puntate più belle per me sono i Treehouse of Horror. Esatto. Per esempio, quando abbiamo citato lo strano esperimento del Dottor K, viene anche omaggiato in una puntata dei Simpson in cui Bart diventa l'uomo, la mosca umana. Beh, io mi ricordo quella là che poi loro muoiono nello spazio. Che praticamente. Pop, quello del Millennium Bug. Sì, sì, sì. Bravo, sì, Spock, che poi esplodono. Gli esplode la capoccia. E fuori si. Esatto, sì, come i palloncini. Fuori dallo schermo, è bellissimo. Quella è la figa. Sì, no, devo dire, comunque, i Simpson. Molto di più di quanto poi non ho mai avuto un grosso legame né con i Griffin, ma neanche con Futurama, devo dire la verità, non è che mi sono mai. Anche perché in generale, comunque, non è. Allora, per me South Park proprio non esiste, per esempio. Ammazza. È per me. Tra l'altro, sta per uscire lo speciale post-Covid di South Park, ragazzi. Quello Covid è stato meraviglioso. Quello io penso è l'apice veramente degli ultimi anni, della televisione degli ultimi anni. C'è stata proprio una, una satira sulla gestione del Covid in America, che è fenomenale. Però vabbè, South Park devi riuscire a digerire lo stile. Sì, devi entrare un po' nel contesto. Però una volta che sei, cioè, che passi sopra il tipo di disegno, il tipo di animazione, ma io sono assolutamente convinto che è come di una cattiveria unica. Però, per esempio, ho giocato al primo gioco. Quello là, insomma, col combattimento. Sì, come hai fatto? Esatto. Scontri diretti. Sai che non mi ricordo perché Sì, ho il mago, però perché il mago. Ma sei il mago, l'ebreo. Puoi fare il mago, o l'ebreo. Se fai l'ebreo non andremo d'accordo. Sì, sì. No, devo dire che quello mi sono divertito anche a giocarci, cioè, insomma. Sì, era divertente. L'ho trovato veramente carino. E comunque, ragazzi, però credo che nella sua versione cinematografica ci sia la scena, l'apice cinematografico di sempre, che è Satana con Saddam, che credo che è una scena che non si supera. Non si supera, ragazzi. Col pistolino, vabbè, lasciamo stare, non voglio rievocare. Lo spoilerai, lo spoilerai. Ma è solo dei 25 anni fa che puoi spoilerare. No, più di 25. No, io quello lo andrei a vedere con quella rompa. 2000 mi pare. 2000, 2099, 21, 22 anni fa. No, la genialità di quel film, però, fu che la trama stessa lo metteva al riparo dalle critiche. Perché alla fine quel film parla degli effetti negativi, cioè di un disastro causato da una censura stupida, di un film volgare. Bene, io prima di chiudere la puntata, però. Ah, chiudiamo? Sì, prima di, cioè perlomeno. Cioè, prima, tanto dico prima di chiudere la puntata, non ho detto adesso chiudiamo. No, la puntata. Era per. Prima che si scorda. Giustamente, dato che Marco Gualdi ha vinto i suoi primi 5 punti, adesso tocca a Francesco. Vai, Francesco, vai. E c'è il notaio Walter che si sta accomodando con le cuffie proprio per vedere se tu dirai le cose giuste relative a questo artista. Ah, beh. No, tu devi fare cazzi tua. No, infatti, non dico niente. Ah, ok. Questo è. Questi sono i David deve morire. E praticamente questa canzone si chiama Come ti plagio Enter Sandman senza beccarmi le denunce dagli avvocati. E però comunque non è bastato, perché questo è il primo singolo del terzo album della band. Fatto col quinto batterista di turno, perché gli altri due, cioè, hanno beccato una sorta, sempre cavano tutti e finirono con la sodomia, fargli perdere le serate. No, con fargli sì, ma nello specifico il brano come si chiama, perché ancora non l'hai detto. Ah, cazzo, non l'ho detto, è vero. L'ho detto come si chiama. No, ho detto Come ti plagio. Sì, come ti plagio Enter Sandman senza farmi. Ah, è vero, hai ragione. Però tra parentesi, ma quello è il sottotitolo. Però non c'è in deriva. Sì, c'era Entra uomo sabbia. Ok. Entra uomo sabbia. Ma tu stai. Non devi... Vabbè, scusa. Scusa, poi mi tocca sottrarti un punto dopo. Attenzione, la prossima volta che lo fai. Vabbè, però sto favorendo lui. Quindi hai concluso? No, diciamo che poi David non deve morire. però in realtà non c'era sto David nella band fondamentalmente, quindi alla fine dovettero crearsi sto personaggio apposta che si chiamava David, che faceva i cazzi suoi, che in realtà era un povero coglione come Eddie de cose. Dai, devi fare i cazzi tua. Hanno preso delle immagini stock che tutta la gente si era commentato su Eddie, poi nell'ultima volta si era dimenticata di pagare l'immagine stock, quindi c'era il watermark e quindi c'è pure lo scandalo. cazzo, mi aveva preso un'immagine stock e poi erano sgamati così, e poi c'è stato un periodo di silenzio in cui un pochino si sono separati, ma stanno facendo la riunione, è detto che hanno le critiche e sono tornati come prima a fare sempre plagi per non farsi sgamare. Ok, sentiamo Sbano se conferma. Allora, confermo ed è corretto, quindi qui ci sarebbe un ex aequo 5 a 5, quindi la cosa adesso si può risolvere in due modi secondo me: o c'è un terzo brano, il più veloce a indovinare. Esatto, bravo. Infatti c'è il terzo brano. E a questo punto, insomma, tanto sfumiamo questa, che poi tra l'altro era pure interessante. Infatti una volta becchiamo un bel brano Creative Commons, ci parliamo sopra. Lo so, purtroppo questo è il destino. Quindi adesso io faccio partire immediatamente il terzo brano. Il primo che dirà la cosa giusta, che è insindacabile giudizio ovviamente del notaio Walter, ovviamente vince. Vado, è 1, 2, 3. Ma la indovino con una. Questo lo conosco. Questi sono la cosa giusta. Allora, però attenzione, Piragna gnagna. Esatto, proprio quello. Attenzione. Esatto, il brano è proprio quello. Allora. Allora, però qui virgola. Sì, c'è il segno sopra del legno. No, mi fa del, no, come si chiama, del, come cacchio si dice quando, del periodico, quindi si dice ogni volta che lo pronunci devi dire più volte gnagnagnagna, quindi è esponenziale, periodico ed esponenziale, così vuol dire un cazzo, però vabbè, era di Scarcool quel leader, quindi di Scarcool. Sì. Scarcool. Ok, Walter, secondo te chi ha risposto per primo e correttamente? Allora, io qui è un po' difficile confermare l'ex aequo, perché Marco ha indovinato il gruppo, ma Francesco ha indovinato il la brano. Canzone, quindi direi ex aequo, e mi sembra di chiudere così. E quindi vabbè, allora, quindi con 15 punti a testa vincono entrambi. Che esatto. Comunque Francesco, ricordiamo uno dei più grandi successi di questo gruppo, che è appunto gli ex aequa, che praticamente è una canzone. Sì, però non fa il saputello così. Tanto no, avete vinto entrambi. Il casco di banane verrà equamente esatto, diviso. Vedi metà. Che ce n'erano due, qua, giusto, però, esatto, certo, giusto, no, appunto. Esatto. Francesco, però insomma, mangiamo il casco di banane così. Falla a metà e facciamo esatto, metà. Che... tu fai metà, sì, sì. C'ho due, così tu metà dici banana. C'ho due metà caschi di banane, esatto. Così uno dopo mangia esattamente, cioè. Io non credo che mancheranno le occasioni, perché non so quanti orifizi avete, ma le banane e sono comunque tante. Ragazzi, non avete mai pensato che dividendo metà una banana e metà te la mangi, poi alla fine si riuniscono, cioè, esatto, cioè, quindi... a metà strada. Mi pare giusto. Assolutamente, questo è il momento più alto dal 1910 oggi 11 anni di podcast. 1910, allora, oggi io so 110. Che Marconi quando ha sentito ha detto: se sapevo che finiva così me facevo i cazzi mia. Esatto, no, però devo dire la verità, dal 2011 ad oggi, no, che cazzo 2011? Sì, dal 2010 a oggi, questa è la frase con il maggior contenuto filosofico, sì, e simbolico che noi abbiamo mai detto in questi 11 anni. Quindi, insomma, Madonna, comunque il momento, bravo Marco, il momento bravo. Sì, sento fiero e orgoglioso di me stesso. Comunque, il momento più alto è ancora questo qua. Che però è una via di mezzo tra quello che pensi tu e quello che pensiamo noi. Esatto, in qualche modo sì. Perché a volte è anche... E qui io so che non si è sentito, ma Marco mi ha visto, insomma, quindi l'importante è che mi ha visto. Vabbè, dai, io, ragazzi, vogliamo andare avanti con delle notizie. No, vogliamo andare avanti. Facciamo ancora MFR. La butto lì. No, Francesco, no. Ma una carta? No. Sì, butta la carta. No, hai rotto il cazzo. L'ultima carta, dai. Hai rotto il cazzo questa carta. Ma siete voi che me le chiedete. Ma dai, metti. Ma non è vero che siamo noi che chiediamo. Se tu le proponi, è normale. Ce l'hai adatta al contesto, solo che non so chi parteciperà, perché secondo me molti sono già andati a dormire. Però proviamo, però deve essere adatta al contesto. Vabbè, perché partecipiamo noi. Sì. Va truculenta, bene. Vai, truculenta. E horror. Va bene, allora. Ce l'ho, la risurrezione. Non è Gesù, per Pasqua, è Gesù Cristo. No, è accaduto un miracolo. Il coniglio morto della famiglia Guglielmi è improvvisamente tornato. Se lo sono magnato. È tornato sotto forma di pietanza. No, cioè noi dobbiamo indovinare perché è tornato o perché è morto. Tutta la situazione. Ma vi mando l'audiovisivo apposito. Ma il nome della famiglia è Guglielmi. Importante. Aspetta, no. No, se fosse stato Guglielmi Netti sarebbe stato importante. Vediamo allora. Però mentre che pensate, scusate, come la risurrezione? Non era si può dire anche risurrezione o è un refuso? Risurrezione, boh. Perché sì. Io dico resurrezione, vabbè, sì. Comunque non è importante. Forse non è molto italiano, però, cioè molto un po' desueto. Però dici, che dicevi? No, stavo dicendo che mentre ci pensate vi faccio sentire una canzone. Questa volta la faccio sentire sul serio, anche se ve la faccio sentire pochi secondi, perché sennò poi ci rompe il cazzo. Perché secondo me è una canzone che è attinente alla serata. Non so se avete. Cioè, perché la canzone ha un titolo: Mi fa paura solo il buio. Attenzione, è importante questa solo cosa. Il buio solo in buio. No, mi fa paura solo il buio. Cioè, tutto il resto non gli fa paura. Il buio. Bella, no? Già l'ho sentita questa, già l'ho fatta. Stretto in un abbraccio, il tempo di un sospiro. Gingin l'ho usato, poi di colpo buttato via. A Sbano piace, vero? Guarda, il secondo soltanto al maestro. Ma non piango mai. Comunque credo che l'altro abbia messa durante una puntata o di Disinformati, sì, di Ordinati Informati, perché una cosa del genere te resta impressa. Sì, l'abbiamo già messa. Vabbè, ritorniamo alle atmosfere. Chi è il maestro, scusa? È il maestro, circa il maestro, circa il maestro. Io il nome non me lo ricordo. Margherita. Maestro e Margherita. No. Comunque, vabbè, è morto sto coniglio. Ma è morto davvero il coniglio? Sì. Però è tornato. Ma era morto già prima di andare via? Sì. Più morto. Il silenzio scende. No, ecco, quando poi su queste cose ti devi pensare non lateralmente, devi tangere. Anzi, ma se lo sono magnato. No. Vabbè, no. Allora che tornano a fare? L'hanno fatto. Ma scusate, ma. Quando imbalsamato. Stavo dicendo, ma è tornato vivo? Ma io c'ho una domanda. No. C'ho una domanda. L'hanno imbalsamato? Se lo sono messi sul comodo. No. C'ho una domanda tecnica per Francesco. No. Ma il fatto che alcune parole siano in grassetto e altre no, ha un senso? No, è semplicemente la prima parola. Che è la prima parola. No, non ti fissa su queste cose tecniche, tranquillo. Il coniglio è un essere vivente o è metaforico? Era un essere vivente. Posso rispondere? Un essere vivente, sì. coniglio vero, ok, perfetto. L'hanno usato in uno spettacolo di prestigio, di prestidigitazione? L'hanno tirato fuori dal cilindro? No. È crudo? Sono tornato. Sì. Sì, è crudo. Scusa, però è tornato. Mica è tornato vivo. Infatti. Ah, no, gli ho chiesto, ma è tornato vivo? No. No. E quindi è andato via vivo? Ah, ok. No, ma non so, non ho capito bene la domanda. Quando non è andato via, quando non c'è, perché è tornato, cioè, deve essere andato via. Era vivo? La domanda è: sto coniglio è morto? No. No, sì. È uscito di scena morto, insomma. Sì. Perfetto. È uscito di scena morto ed è tornato morto. Allora, ma sono loro che si sono disfatti del coniglio? Sì. Cioè l'hanno buttato, tipo? No. No, l'hanno portato a impagliare, no. Ma okay. La famiglia Guglielmi questo coniglio l'aveva preso per mangiarlo? No. Quindi era un animale di compagnia, da compagnia? Sì, se non c'è specificato, ma si deduce che sì. Okay. Non è che era un coniglio di peluche e l'hanno ritrovato? No. Quindi loro si sono disfatti di sto coniglio. Aspetta. L'hanno seppellito? Sì. Potevo giocare a Street Fighter, sì, dai. Ah, è tornato perché l'ha scavato il cane e l'ha riportato a casa, praticamente. Sì, però mi ricordo che c'era una storia che i conigli, se non li seppellisci bene, riescono fuori. Ma che cazzo, sì. Stai a dire? No, se li seppelli a fondo perché sono leggeri, buona roba già. No, sì, non mi ricordo se erano i conigli o i bisoni che si erano infettati di Covid, che erano sotterrati troppo basso e poi sono ritornati su. Però non è questo il caso. No. Quindi è stato diseppellito? Sì. Dal cane? Sì. Ok, perché il cane tende a diseppellire e riportare le cose. Sì. Che ne so. Il cane scava. Il cane lo aveva ucciso, l'aveva seppellito e poi lo è andato a riprendere. No, ha detto che loro l'avevano seppellito. Ah, no. Oh, no, ok. È morto il coniglio. Lo hanno seppellito. No. Esatto. Il cane lo ha scavato. L'ha scavato. Gli ha riportato. Gli ha riportato. Però dice no. Sì, però non proprio. No. No. Mo' è dita no. O no. Prima era sì, mo' è no. Allora, è confermato che il cane ha disseppellito il coniglio? Sì. Sì. Ok. Quindi perché? Che se l'ha mangiato e lo ha cagato in casa. Ed è tornato, eccolo. È tornato. No. Perché ha visto che il figlio della famiglia Guglielmi era triste, allora lo ha disseppellito e gliel'ha portato. Ma chi? No. Il cane. No. Ma che è? Mo stiamo pensieri antropologici al cane, antropomorfi. No. Per consolare il pupo, no. Oh, in chat dite qualcosa, che se c'è cioè, stiamo solo dopo che se ne sono nati in chat. Esatto. Sono tornati per loro. Allora, se siete morti è ora che resuscitate, è l'ora giusta, perché insomma noi non è che possiamo aspettare a mezzanotte. Famolo alle 23:20, il siparietto. Comunque, il cane, il coniglio è stato seppellito, il cane l'ha disseppellito, sì. E l'ha lasciato lì. Sì, no. No, quindi l'ha portato in casa. Lo ha portato via. Sì. In casa? No. Nella cuccia. Ok. Nella cuccia, giusto? No. No? No. No. L'ha portato davanti la porta di casa? No. In macchina? No. Al cimitero? No. No. L'ha portato dal vicino? Sì. Attenzione. Che ha detto questa merda, gliel'ha riportata ai proprietari? No. I proprietari si sono incazzati perché dove l'avete buttato sto cazzo di coniglio? Nel giardino nostro, brutti stronzi? No. Cioè, quello che ha visto. Allora, il vicino di casa ha trovato il coniglio morto. Sì, in che senso l'ha trovato? Cioè, perché il cane l'ha portato e lui l'ha trovato. Sì, l'ho preso. Sì. e lo ha spedito ai vicini? No. No. Ma glielo ha riportato ai vicini? Sì. Quindi, praticamente il cane ha lasciato il, la carcassa del coniglio sul vialetto del vicino, che quando ha detto: ah, questo è Fruffo. È il coniglio dei Guglielmi, gliel'ho andato a riportare. Sì, sì, c'è un dettaglietto, però. Era morto anche lui. Così. Insieme al cane gliel'ha riportato. No. Sappiamo che i Guglielmi hanno sotterrato sto coniglio che era morto, e il cane, un cane, ah, non era, ha preso, il suo l'ha cane. Sotterrato, il cane l'ha preso e l'ha portato vicino. Dal vicino, sì, il cane, sì, dal vicino, cane l'ha preso vicino. E quindi l'ha restituito, cioè forse è l'ha, restitu- l'ha, da- l'ha dato al proprio al padrone, cioè il cane è del vicino, sì. E il vicino ha visto qualcosa su questo coniglio? Qualcosa di particolare? No. Allora il dettagliuccio qual è? È il cane del vicino. E i Guglielmi si sono ritrovati il coniglio in casa. Il cane del vicino si è ingroppato il coniglio? No. Ha cominciato a giocarcelo, ha lanciato dall'altra parte. Non il cane del vicino. Il vicino in qualche modo gliel'ha riportato, però il come è particolare. L'ha tirato dalla finestra. Sì. Gliel'ha fatto in umido con le patate. Con le olive, anzi. No. Quindi come volevo. È stata una cosa simpatica? Oddio. Volutamente simpatica, non involontaria. Cioè lui voleva fare un gesto simpatico. No. Voleva fare un gesto stronzo. No, la domanda è: volevano fare un gesto gentile? Sì. O volevano. Sì, gentile, ok. Forse gliel'hanno impagliato. Gliel'hanno imbalsamato. No, perché ti hai detto che non è tornato imbalsamato. Se volete ve lo dico, tante più o meno una minuzia, però è divertente. Però se una minuzia senza elementi, la minuzia non la troveremo mai. No, è una minuzia che ci può stare in realtà, però. Una minuzia che è importante per la dinamica della situazione. Gli ha riportato vestito? No, gli ha cambiato il colore. Glielo ha cosparso di cioccolato, è diventato della Lindt. No. Ha fatto una cosa gentile, questa era una cosa stronzo, mi piglia per culo, dai. Glielo ha messo dentro una bara. Esatto, pensato pure. No. Glielo ha cremato? No. Glielo ha ricomposto, ha ricomposto le spoglie. Gliel'ha regalato. Che intendi per ricomposto? Cioè l'ha rimesso, l'ha ricucito, l'ha ciancicato, esatto. E quindi l'ha rimesso un po' in sesto. No, però l'ha rimesso in sesto, sì. Diciamo così. Gliel'ha fatto al forno con le patate e gliel'ha portato. E basta. Sì, la logica con cui il cane comunque l'aveva un po' scinciato, come si dice delle persone. No. Gli ha fatto il bagnetto. Gli ha messo i bottoni al posto degli occhi. Sì, volendo sì. L'ha pulito. Sì. L'ha profumato anche. No. Ci ha fatto uno scaldamani. No. Lo ha lavato in varecchina. L'ha pulito. L'ha pulito. E quindi c'è ancora un elemento peculiare da trovare. Sì, sì. E poi l'ha riportato dai vicini, però. Però, diciamo. Vabbè, ve lo dico, dai. Sì, direi di sì, ormai. Sì, è arrivato. Ciao, cuciniere, che domanda l'ha imbalsamato. Si vede che sei arrivato adesso. Ciao. No, niente di che. Ha intanto, scusate, Lilith in chat aveva scritto: cosa reale, i cani quando vedono che scavi e sistemi la terra vanno, scavano e tolgono ciò che hai messo in quel punto. E poi invece domanda: l'ha pulito e ha messo un fiocco? Quasi, stiamo là. Diciamo che il vicino ha pensato che il cane l'avesse ucciso, e per coprire l'incidente si è infiltrato in casa dei vicini, l'ha pulito e tutto, l'ha rimesso proprio dove stava il coniglio. Posso immaginare questi Guglielmi quando sono tornato a casa. Non mi sembra un gesto carino per non farsi prendere la colpa del cane. Esatto, stavo pensando alla stessa cosa. Fondamentalmente sì. Francesco, tu hai un problema quando giochiamo a sto gioco, ci mandi sempre per la direzione sbagliata. Ci ciforvi, ciforvi. C'hai fuorviato. Cioè ci fa, esatto, un po' sì, un po' sì. Devo perché dire in realtà che... dicendo no, che, no, no, no, che lui voleva fare un gesto gentile, in realtà non fa un gesto gentile. Se vuole culo, fa un gesto infame. Cioè, no, no, però se dice, no, però se dicevo ha fatto una cosa brutta, voi pensavate l'ha spezzato, l'ha distrutto, l'ha ciancicato, l'ha no, è una cosa neutra. No, però ci saremmo potuti arrivare. Tu non dedurre per gli altri, tu dai le informazioni che devono essere. Cioè, poi dopo siamo noi a sbagliare per conto nostro. Va bene, okay. Vai, vai, fantasma. Voi perché non ci giocate con un'altra persona che gli dite, che ne so, ma il coniglio era vivo? Sì. Poi dopo un po' gli richiedi, ma il coniglio era vivo? No. Cioè, non solo c'è la difficoltà del capire, c'è la difficoltà pure che ti dà le risposte random. Sbagliate. Beh, qualche volta è capitato anche a noi, eh. Va bene, che famo? Ma famo quelli che vanno, non ma lo sì, so, dai, direi che l'abbiamo portata sì, a casa. Un po' di cazzate l'abbiamo raccontate, un po' di film horror belli, film horror brutti, film horror che fanno ridere l'abbiamo detti, il giochetto l'abbiamo fatto, il campionato di riconosci la canzone l'abbiamo fatto, due brani così l'abbiamo sentiti, quindi io direi a questo punto... giusto perché ci siamo, insomma, e mettiamo quella che in realtà è consuetudine, il tappetino musicale che porta OGM verso l'uscita, verso defluire, verso quella è la porta, andatevene, andate dove è andato il ragazzo, quindi esatto. Io ringrazio e saluto Francesco Lobi Frontali, anche detto Di Muro. Ciao, è stato sempre un piacere. Ma fra poco, ma rimanete collegati perché fra due minuti inizia Runtime de Notte. No, fra un po' ricomincia Runtime de Russo. Tra l'altro sapete che dentro un gruppo dove ero entrato da poco, perché c'entravo poco, dove si parla dei videogiochi, roba del genere, una volta stavo a leggere, poi mi sono addormentato col naso e avevo schiacciato praticamente la registrazione, e quindi ci stavano tipo 15 minuti ed io... Ma il che sei riuscito a schiacciare la registrazione col naso è da campionato mondiale. È incredibile. Sì, infatti mi sono anche piegato gli occhiali. Scusate, un appello prima che salutiamo tutti. Cuciniere chiede: consigliatemi un film horror per stanotte. E a questo punto Entity, cerca Entity. Entity. Pentity. No, Pentity. Entity, scritto Entity. La Y. Invece lo vuoi un film horror proprio che tremendi, il peggio di tutti, cioè quello lì che dice meno male che queste cose non succedono nella realtà, film horror peggiore per tutti, Diaz, guardati quello, poi dice meno male che è una cosa dei fantasmi, veramente, dici porco Diaz. Ma quello sulla scuola, Diaz, quello sul G8 di Genova, l'ho visto, lo so che l'hai visto, diceva il cuciniere, dicevo quello per me il tu lo dicevi al cuciniere, ma Walter ci teneva a dirti che lui l'ha visto. Vabbè, abbiamo visto tutti comunque. Dice cuciniere Diaz ce l'ho. Io in realtà ce l'ha. Va bene, salutiamo anche Carmine Console, anche detto Puccio. Ciao, ragazzi. Buonanotte. Grazie di essere fate stato Scaruzzet. Fatevi una pippa pensando a Freddy Mercury che squarta la gente. Freddy Mercury. Dai. Ha già cominciato, ragazzi. Mamma mia. Neanche gli adolescenti, oh, e che cazzo. Salutiamo anche il fantasma di Marco Gualdi. Ciao. Vorrei dirvi che ci vediamo la prossima volta. Okay. Ma non è detto. Ho perso la vista. Ma sono un fantasma, potreste non vedermi. No, per la prossima volta avrò perso la vista e tutti noi avremo perso la vista. E salutiamo anche Walter The Creep Show Sbano. Buonanotte. Da me Simone Pizzi è tutto, vi ricordo di andare su www.rantameradio.it e cliccare su anche io per dare una mano alla nostra ovviamente bellissima famiglia, e se volete ovviamente potete contribuire con un Patreon oppure con una donazione, una tantum su PayPal, trovate tutte le istruzioni. Grazie a tutti, buonanotte e passate una bella festa di domani, che è domani, che è i morti, domani i santi. È il pre-santi, no, no, domani è i santi, domani è i santi, i morti era oggi, i morti in Italia dopo domani. Ok, allora io non... domani speciali di morti di bestemmie che ci stai contestuali. Esatto, i morti. Se no mi tocca dire i morti. Non voglio dire i morti. Arrivederci, grazie.